Lontano, nei dimenticati spazi non segnati sulle carte del limite estremo e poco alla page della spirale ovest della galassia, c'è un piccolo e insignificante sole giallo. A orbitare intorno a esso, alla distanza di 149 milioni di chilometri, c'è un piccolo, trascurabilissimo pianeta azzurro-verde, le cui forme di vita, discendenti dalle scimmie, sono così incredibilmente primitive che credono ancora che gli orologi da polso digitali siano una brillante invenzione. Questo pianeta ha, o aveva, un problema. E il problema era che la maggior parte dei suoi abitanti era quasi costantemente infelice. Per rimediare al guaio furono suggerite varie proposte, ma queste, per lo più, concernevano lo scambio continuo di pezzetti di carta verde, un fatto indubbiamente strano, visto che tutto sommato non erano i pezzetti di carta verde a essere infelici. E così il problema restava inalterato. Un sacco di persone erano meschine e la maggior parte erano anche infelici, persino quelle fornite di orologi digitali. Erano sempre di più quelli che pensavano che fosse stato un grosso errore abbandonare per sempre gli alberi, e c'erano alcuni che arrivavano a pensare che fosse stato un errore perfino emigrare nella foresta e che gli antenati non avrebbero mai dovuto lasciare gli oceani. Buonasera a tutti e tutte. Quello che avete sentito era l'introduzione alla Guida Galattica per gli autostoppisti, un libro di Douglas Adams, grazie a Radio 3, che gliel'abbiamo fregato ad alta voce. Molto grazie. Invece, la prima cosa che avete sentito era Ufocilismo Instrumental di Kogol. Per l'esattezza, è uno degli ufficialisti che avremo collegato con noi fra pochissimo. Buonasera a tutti e tutte, sono Bricco Baldo e state ascoltando Radio Wombat. Siete all'ascolto di Radio Wombat, potete interagire con me attraverso il pad, lo trovate sulla home del blog, il primo post riporta un link pad.rasup.net, da lì potete farlo, potete scrivermi e io leggo in diretta proprio qui. Abbiamo in collegamento con noi Kogol, ufocilista, autore del libro Ufocilismo, ora un attimo lo collego. E ci racconterà un po' di che cosa si tratta dell'ufficialismo. Siamo all'inizio di una ricognizione, stiamo veramente per partire, stanno. E buonasera, Cobol. Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Come state? Bene, io bene, Vabbè, spero. in questi casi va chiesto, diciamo, no? Sì, in questi casi In va chiesto. altri no, però. Eccoci. Allora, mi senti bene? Sì, molto bene. Bene, allora intanto due parole su che cos'è l'ufocilismo, perché magari chi non lo conosce penserà subito a extraterrestri, a robe molto inerenti a quello. Invece noi abbiamo una missione ben precisa questa sera, così come la missione è ben precisa anche quella dell'ufocilismo. Quindi una veloce presentazione di che cosa fa il gruppo degli ufocilisti e poi Beh, magari... insomma, Prego. sì, no, beh, diciamo sì, in qualche modo gli extraterrestri c'entrano, se non altro in maniera metaforica e anche politica, nel senso che poi è quella dell'UFO, soprattutto non quella dell'extraterrestre, è una metafora politica molto forte, perché l'UFO è comunque oggi l'unico oggetto probabilmente che riesce a sottrarsi in maniera sistematica a tutte le forme di controllo, a tutte le forme di disciplinamento, perché nessuno sa bene che cosa si tratta, eppure lì beffa tutti i sistemi più avanzati di intercettazione e di controllo, e quindi è un'ottima metafora politica della sottrazione, no? Del nascondimento, della sottrazione, della sparizione dal punto di vista dei precetti identitari e anche di identità in quanto identificazione da parte del controllo. Quindi, insomma, è come dire, un'alternativa, se vogliamo, alla biopolitica così come oggi è intesa e come sempre più verrà intesa in senso forte. E comunque, diciamo, gli ufocilisti sono dei ciclisti urbani, fondamentalmente si muovono all'interno, siamo ciclisti urbani, ci muoviamo all'interno dell'ambito anche della critical mass romana in questo specifico, ma anche della Semmona nazionale. Però come ambito particolare noi siamo dei cartografi, cioè ci occupiamo di fare cartografie alternative del territorio esplorato, quindi ci muoviamo attraverso con la bicicletta sui territori, facciamo mappe alternative, mappe sensoriali, creiamo. E questo perché? Perché il progetto è quello di fondamentalmente fare reset di quella che è la norma che in qualche modo descrive bidimensionalmente il territorio, e da lì ripartire da zero e proporre un modo alternativo di immaginare di vivere il territorio. Partiamo dal livello più basso, che è quello delle mappe, fondamentalmente, il fatto che le mappe siano degli oggetti sempre orientati politicamente, socialmente, non lo diciamo noi, lo dicono i cartografi stessi, cioè coloro che in realtà alle carte più tradizionali, quelle che poi orientano gli esseri umani sul pianeta, nelle città, nei luoghi antropici, lavorano. E quindi noi facciamo nostro questo precetto, tra l'altro derivando anche parte dei nostri strumenti che poi noi abbiamo ampliato nel nostro blog, nelle nostre ricognizioni e in due libri che abbiamo scritto per tentare anche di allargare il più possibile il discorso sulla cartografia. E deriviamo, dicevo poi, da quella che era la psicogeografia degli anni 50-60 francese, che aveva un approccio assolutamente fenomenologico. Noi abbiamo un approccio più, permettetemi la cosa, più scientifica, perché i nostri strumenti poi derivano anche dalla topologia, dalla geometria vettoriale in senso molto lato, e con quelli esploriamo la città in base alle atmosfere, quindi ai conflitti atmosferici che nelle città si creano e che danno forma alla città, che danno forma anche alle persone che questi conflitti atmosferici vivono e attraversano. Quindi la conformazione atmosferica della città è poi la conformazione atmosferica delle persone che la vivono e che quindi plasma le sensazioni, il modo di vivere dentro le città. Questi strumenti di cartografia sono strumenti attivi, nel senso che sono strumenti sia che rilevano, che aiutano a rilevare in maniera oggettiva queste atmosfere, ma che riescono anche a porre delle precondizioni per in qualche modo avallare o combattere, quindi molto in maniera antagonista rispetto ad atmosfere che sono, secondo noi, assolutamente deleterie, assolutamente funzionali a solo esclusivamente al discorso della riproduzione del capitale e basta, che quindi non guardano in faccia a nessuno, come ad esempio la gentrificazione, alcuni processi di gentrificazione che ecco, oggi sono visibili in tutta la città. E perché usate la bicicletta? Beh, la bicicletta di per sé è un mezzo, anche qui mettimi insomma la metafora, un rivoluzionario, perché riesce ad attraversare il territorio in una maniera completamente diversa da quelle che sono le consuetudini d'attraversamento del territorio. E i situazionisti, quindi la psicogeografia, utilizzava la camminata, però la camminata è in qualche modo molto limitata dal fatto che a piedi si percorrono al massimo pochi chilometri, quindi si ha poco questa capacità di cogliere la differenza tra atmosfere all'interno di una città. È una cosa molto importante, cioè il fatto che se io vivo solo esclusivamente all'interno di un'atmosfera, di un unico sole colore, mettiamo le zone rosse, io non avrò mai la percezione di quello che può essere l'alternativa atmosferica all'interno di un contesto urbano. Questo passaggio variegato all'interno di atmosfere, che poi è tipico delle città nelle quali viviamo, perché le zone si creano su presupposti, vengono governate da progetti e pensieri, mentalità completamente diverse, sono proprio alla base di questa capacità poi di rimodulare di per sé, no? E di anche di essere attivi rispetto all'accettazione o meno di determinate atmosfere in cui siamo immersi. La bicicletta è appunto questo mezzo che di per sé già è un mezzo che attraversa il territorio in una maniera anarchica e completamente destrutturata. E questo non basta, se alla bicicletta non uniamo una teoria più generale, delle teorie più dell'utilizzo degli strumenti, una cassetta di attrezzi più specifica, proprio appunto per la cartografia, poi la bicicletta diventa un mezzo come un altro. Però insomma, questa sua attitudine ad attraversare i territori in questo modo e la cartografia alternativa fanno della bicicletta il miglior mezzo immaginabile, soprattutto perché la bicicletta ti consente di percorrere, insomma, di coprire ampi spazi mantenendo forte quello che è il contatto sensibile con l'ambiente, che è roba che è un mezzo pubblico, un'automobile, ma anche una moto o comunque un motore anche su due ruote non riesce a garantirti, perché sono di che, no, tendono prima di tutto a distaccarti, a inscatolarti in qualche modo all'interno di un abitacolo, di un habitat protetto, che ti fa perdere la sensibilità proprio rispetto allo spazio che vivi e quindi alle atmosfere che questi spazi emettono. Ecco, e dove vi trovate adesso? Allora, noi siamo, insomma, il nostro collettivo è residente a Roma in questo momento, sia chiaro, cioè l'ufo ciclismo è una pratica libera, poi noi proponiamo un metodo cartografico, ma non è necessariamente l'unico metodo cartografico. A noi quello che preme e quello che ci piacerebbe è che chiunque la parte antagonista che producesse mappe alternative di qualsiasi cosa. Noi facciamo dei territori attraverso la bicicletta, ma poi uno potrebbe come dire, affiggere a questo acronimo UFO, che poi significa per noi proprio esattamente questo, no? Come creare qualcosa di non identificato, lo potrebbe affiggere a qualsiasi pratica quotidiana, perché è un po' lo stimolo a ripensare qualsiasi qualsiasi atteggiamento e qualsiasi approccio a tutto quello che è tutta la nostra quotidianità, agli sport, ai rapporti con le persone, ai rapporti con l'alterità. E in questo momento siamo a Roma, ci siamo di nuovo dopo 2 mesi in strada, proprio per in qualche modo per tentare di comprendere che cosa è accaduto e cercarlo nei segni della città. Questa è la nostra prima ricognizione post pandemica, diciamo post nel senso comunque di state due, proprio perché comunque ci consente una agilità motoria e politica diversa da quella che c'è stata per questo mese e mezzo, questi 2 mesi. Quindi siamo una piccola cellula in questo momento di 3 persone, e ci muoveremo in uno spazio che è uno spazio appunto di Roma Est, in cerca dei concreti segnali di quella che noi chiamiamo un'estensione totale della zona rossa all'intero pianeta, che è poi un po' il fenomeno secondo noi più rilevante di questo evento inaspettato, in parte inaspettato, inatteso, ovvero che per la prima volta sul pianeta Terra c'è stata una sincronia di dilagazione appunto di zone rosse che poi si sono conurbate, sono diventate tutte la stessa identica cosa e hanno prodotto questo sistema di espulsione dei corpi dai luoghi pubblici, fondamentalmente dagli spazi pubblici. Noi abbiamo rinunciato in una maniera, non potevamo fare altrimenti, probabilmente abbiamo rinunciato senza nessun tipo di contrattazione a quella che è stata, no, in questi 2 mesi, e quella che è stata quella che dovrebbe essere il controllo del territorio che ognuno ha, cioè il controllo nel senso lo starci, il poter interagire con le persone. Una cosa che a me personalmente ha molto sorpreso, oltre che, diciamo, che io rilevo oltre a questa estensione totale della zona rossa, è il fatto che anche da parte antagonista, da parte di tanti cuori, menti e polmoni, di tanti compagni, persone che comunque hanno un pensiero critico, in questa fase 2 si sia sentito molto spesso la necessità di criticare una possibile apertura, appunto riapertura agli spazi, senza considerare che invece questa socialità poteva essere gestita, no? Questa socialità alternativa poteva essere gestita in una maniera sicura, ma appunto autonoma, non necessariamente dettata da quella che è la norma e quelle che sono le regole che fino a questo momento ci hanno imposto e che sono regole grossolane. Il distanziamento sociale è sicuramente un processo che tenta di arginare, ma in maniera molto grezzo, no? In maniera molto rozzo, quello che è la situazione che stiamo vivendo. Ecco, a me sorprende molto che appunto in tanti ambienti non si sia sentita l'esigenza di immaginare immediatamente una socialità alternativa, nel senso che non poteva essere ovviamente quella era fino a 2 mesi fa, però comunque protetta, nel senso comunque cosciente di ciò che stava avvenendo, adeguandosi a quello che è il comando, fondamentalmente della sussunzione di questo comando. Quindi questi sono i due fenomeni che cercheremo di cercare sul territorio muovendoci con le biciclette, no? Cioè di cercare di rilevare materialmente. Se troveremo qualche fotografia, abbiamo un blog su cui raccontiamo le nostre ricognizioni. Quindi il tentativo di cogliere gli elementi di questa dilagazione della zona rossa all'intero pianeta e poi anche di questa sussunzione acritica del comando, laddove il comando si è diventato comando poliziesco barra medico tutt'uno, no? Che si è curato, in molti casi sappiamo che si è curato in qualche modo metaforicamente il dilagare della spontaneità pubblica attraverso il manganello e la repressione. Quindi questo andremo a fare questo, quindi se vi va ci possiamo sentire un po' più tardi, assolutamente, vi diciamo insomma quello che stiamo facendo, proviamo qualche cosa, sperando di appunto di riuscire in questo nostro primo progetto da 2 mesi a questa parte. Assolutamente, noi siamo qua, aspettiamo le telefonate, pronti a mettervi in onda. Solo una cosa, voi appunto parlavi delle unità d'ambience, quindi le atmosfere, sì, che ritrovate nelle zone. Atmosfere. E fra l'altro il rosso è un colore, insomma, che ha un significato ben preciso nella vostra tavola cromatica che esatto, utilizzate per dare, insomma, definire, ecco, un po' le le atmosfere. Che cosa rappresenta esattamente il rosso, intanto? Allora, guarda, mi cogli un po' impreparato nello specifico perché dovevo avere la cartella cromatica sotto mano, però sì, noi allora abbiamo quello che tentiamo di fare, che poi è anche quello che in parte tentava di fare la psicogeografia delle origini, è quello di attribuire, dare un tentativo di dare un senso più oggettivo, quindi in come dire, descrivibile anche a chi non lo rileva, in modo da in qualche modo socializzare una sensazione. Cerchiamo di collegare quelle che sono determinate atmosfere a determinati colori, come lo facciamo attraverso quello che tu accennavi, questa tavola cromatica degli stati d'animo, che si tratta appunto di un lavoro che facciamo da anni per tentare di attribuire ai colori una specifica sensazione. Questo non lo facciamo solo noi, questo l'umanità lo fa da sempre, no? Nel senso che molto spesso i colori sono attribuiti agli stati d'animo, quindi è una cosa che in qualche modo emerge abbastanza generalizzata, una specie di truismo, diciamo, abbastanza generalizzata nelle culture. Alcuni colori sono più codificati, questo, e altri meno. Il rosso ha una funzione d'uso, diciamo così, più che un'attribuzione automatica, perché diciamo, più tradizionalmente il rosso è legato più alla passione, no? come colore. In qualche modo invece c'è stato un avvicinamento sistematico del colore rosso al colore, a una sensazione d'allarme, no? Quindi alla proscrizione, ad esempio, a questo colore rosso. Noi in un altro articolo, che non è quello che citavamo prima, che si trova sul nostro blog, in questo momento in cui abbiamo fatto una disamina di quello che è questa dilagazione della zona rossa all'intero pianeta, spieghiamo che di fatto il rosso non ha assolutamente tradizionalmente questo senso, anzi ha tutt'altro senso. Il colore rosso è una convenzione, quindi la zona rossa è una convenzione normativa che però ha quel senso che dicevi tu, nel senso che poi alla fine, che sia spontaneo o meno l'attribuzione nella storia dell'umanità di un certo colore a una certa sensazione, poi lo diventa nel momento in cui è normato, per cui nel momento in cui questa attribuzione del pericolo, questa attribuzione del pericoloso il colore rosso, diventa fondamentalmente una norma di rispingimento. Quindi in questo senso il rosso non ha tanto un significato, diciamo, antropologico rispetto alla sensazione che proviamo, ma lì è una funzione d'uso, un segnale d'uso che viene utilizzato per chiarire che quelle zone, che certe zone sono temporaneamente proscritte. Il grosso cambio di prospettiva, che è solo un grosso cambio cognitivo da questo punto di vista, è proprio il fatto che in qualche modo le zone rosse nascono sempre in contrapposizione a zone, a punti di confine, no? In cui tu le zone rosse non puoi essere, non puoi entrare, quindi sei confinato come cittadino, come biomassa politica, sei confinato in zone di confine. Ora, dal momento che le zone rosse avvolgono l'intero pianeta, la domanda da porsi secondo noi è questa: ma allora se tutto è zona rossa, dove sono? Dove li possiamo intracciare questi nuovi punti di confine, visto che poi in questo momento noi siamo stati espulsi dallo spazio pubblico, dove siamo andati a finire? I punti di confine diventano gli spazi domestici, ovviamente, no? Quindi il nuovo punto di confine, il nuovo punto di esilio diventa esattamente uno spazio domestico, in questo ribaltamento in cui prima della pandemia era lo spazio pubblico a essere temuto perché poteva dilagare nello spazio privato, e in questo momento invece si è ribaltato il mondo e c'è lo spazio privato, no? C'è una sorta di contenimento dello spazio privato rispetto allo spazio pubblico, e le misure di contenimento sono dallo spazio domestico verso lo spazio pubblico. Questo è, come dire, una inversione di tendenza, un ribaltamento secondo noi molto interessante, su cui dobbiamo riflettere, perché pone anche una luce diversa sullo spazio domestico, sulla proprietà privata, su tutti quelli che sono gli aspetti legati al privato e alla dimensione non pubblica. E su questo, insomma, ragioneremo, perché è un po' il nostro obiettivo in questi giorni. Bene, allora buona ricognizione, ci sentiamo nel mentre. Ci sentiamo appena abbiamo qualcosa da riferirvi, vi chiamiamo. Perfetto. Grazie. Benissimo, a dopo. Ciao, a presto. Grazie. Dunque, per sapere di più riguardo all'ufocilismo citato, ci sono due libri, l'ultimo è uscito insomma, nel 2019 e si intitola proprio Ufocilismo, tecniche illustrate di cartografia rivoluzionaria, pedala contro il capitalismo. Hanno un blog su WordPress, ufocilismo.wordpress.com, dove si ritrovano veramente un sacco di informazioni. Quello che citava, quei due articoli che citava, sono uno che risale a pochi giorni fa, era il 29 di aprile, si intitola Come nel mezzo interstellare e di tutti quei mali curati con la purga. E parla proprio di questo, appunto, le zone rosse, dei perimetri circoscritti invalicabili, controllati, vigilati e armati sono idealmente definiti come pratiche di riempimento tonale, di uno spazio altrimenti e per natura sempre tonalmente maculato e diffusamente ricco di sfumature. Queste sono un po' come sono tutte le città, no, come sono tutti i territori, non succedono mai le stesse sensazioni, bensì le sensazioni cambiano spostandosi all'interno del territorio. Quindi, nella sua formulazione generale, ideale, poco importa la sostanza del riempimento, a prescindere dalle sue consistenze e dalla sua architettura atomica. Essa risponde sempre ad attributi di dilagazione, penetrazione e saturazione. Esemplificativamente, potremmo immaginare quindi come un lento ma inesorabile processo di infiltrazione, di impregnarsi di fibre che non può che rammentare il propagarsi inarrestabile dell'acquerello e delle sue imprevedibili e fluide ramificazioni. Una zona rossa si genera ogni qualvolta i pensieri e le azioni assumono forme ricorsive, ipnotiche e ossessive. Esse possono quindi emergere nella vita quotidiana come coordinati casalinghi, completi d'abbigliamento, collezioni o tassonomie d'oggetti, sostanze stupefacenti, funzioni di segnale definitivamente sedimentate, funi per trapezisti, altalene, scivoli, cunicoli da speleologi, piste ciclabili e tante altre cose. Ufociclisticamente, una zona rossa è quindi sempre una varietà dimensionale d'ordine inferiore. E su questo appunto ci si introduce all'altro articolo che citava, che invece è un articolo che risale al 2019, quasi un anno fa, al 24 aprile 2019, si intitola Zone rosse, conflitto cromatico ed esclusione. Appunto, e spiega esattamente che cosa è definita, come è definita una UDA, un'unità d'ambience, cercando di dar loro un perimetro, un limite e via discorrendo. Quindi, fondamentalmente, noi nella puntata di oggi andremo, grazie alla ricognizione degli ufficialisti, ma non solo, avremo anche altre voci. Avremo la voce di Antonio Fiorentino, che è un architetto, un urbanista attivo nel laboratorio per un'altra città a Firenze, così come avremo anche la voce di un antropologo culturale. Autore di Napoli Monitor, con il quale invece parleremo della narrazione che dobbiamo tenere, dobbiamo, insomma, della narrazione da dare a quanto ci sta succedendo fondamentalmente. Lui si chiama Stefano Portelli e fondamentalmente faremo un po' un parallelismo tra il fenomeno che ci stiamo ritrovando a vivere e quello della gentrificazione che tanto ha caratterizzato la vita di tutti e tutte noi negli ultimi decenni, soprattutto per quanto riguarda, insomma, le città turistiche. Stefano Portelli abita e si rifà un po' alla situazione romana, così come gli ufociclisti, ma non è così lontano da quello che è successo a Firenze. Con moti di gentrificazione fortissimi che hanno coinvolto soprattutto il centro storico, ma non solo. E quindi la grande domanda è: ma questo spazio urbano che fine ha fatto? Cioè, come è cambiato? Che cosa, come si è evoluto? Come lo ritroviamo dopo 2 mesi di assenza da esso, fondamentalmente, dove tutti ci siamo ritirati nelle nostre case, lì, come diceva Cobol. Al di fuori, negli unici spazi che sono rimasti esenti dalle zone rosse. Detto questo, comunque si parla di UFO, oggetti non identificati, e quindi avete già sentito un'introduzione, la guida galattica per autostoppisti. Ma intanto io vi mando una canzone, Giovanni Truppi, Amici nello spazio. Vi ricordo, interagite con me attraverso il pad, cioè non c'è ancora nessuno, ma io aspetto i vostri commenti, i vostri pensieri e i vostri suggerimenti. Intanto ci possiamo sentire, Giovanni Truppi. Wombat. Sono con un amico mio, è la sera del 6 gennaio e siamo a San Martino. È il mio ultimo giorno a Napoli. Sono qui per le vacanze di Natale, piove ma non fa tanto freddo e non c'è troppo casino. Un po' guardiamo la città e un po' ci guardiamo tra di noi, parlando di Lavezzi e della solitudine degli eroi. E gli racconto che da un po' di tempo spesso mi viene in mente quella poesia di Dante, quella dove lui diceva quanto mi piacerebbe che il tempo si fermasse, mentre io me ne sto su una barca con un paio di amici miei e qualche amichetta, a parlare d'amore e a cazzeggiare, tipo i video dei rappers americani. Poi gli dico che non me li aspettavo tutti questi addii. Pensavo che ogni cosa che amavo poi rimaneva mia. Però pensavo male e il fatto è che non c'è una regola o una morale da ricavare. Sono con lo stesso amico mio, è una sera di alcuni anni dopo, lo stringo vicino. Siamo affacciati da una finestra qualunque, sopra un cortile qualunque, ma questa notte ci sentiamo vicinissimi al nostro destino. Parliamo del male, in generale, di quello che abbiamo ricevuto e di quello che commettiamo noi. E lui mi dice: lo senti, il rumore. Thank you. 7.59 M. Ascoltaci streaming, il podcast, ascolta le repliche, accedi al nostro blog. L'anello non può essere distrutto qui. Nemmeno il lanciafiamme di Lord De Luca ci è riuscito. L'anello fu forgiato tra le fiamme del Monte Fato. Solo lì può essere annientato. Deve essere condotto fuori dai confini della nostra regione e va ributtato nel baratro infuocato da cui è venuto. Ma niente assembramenti. Solo uno. Può andare. E torniamo a regia per dare le notizie più rilevanti. Almeno per quanto riguarda Firenze e la Toscana, almeno per quanto riguarda, secondo me, la prima, non posso non citare il comunicato che è uscito sulla pagina del comune, sul sito della città di Firenze, comune.fi.it. Tra tutti i comunicati stampa è spuntato questo: affidamento alla protezione della Madonna, Andrea Sciuti, Lega, una vittoria a metà. Eh sì, perché è così, i leghisti sono contenti a metà. Perché? Spiega, il 30 aprile 2020, il cardinal Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, ha annunciato che domani, venerdì 1 maggio, quindi già passato, i vescovi affideranno l'intera Italia alla protezione della Madre di Dio. Liturgia che avrà luogo nel santuario mariano di Caravaggio, va bene? In una delle zone che più ha sofferto il contagio. L'iniziativa dei vescovi italiani, spiega il consigliere della Lega, Andrea Sciuti, tardiva rispetto agli episcopati, è parziale perché i fedeli italiani hanno sollecitato in mille modi una consacrazione e non un affidamento, che è un atto spiritualmente meno impegnativo per le persone. Per la persona che si rivolge alla Madonna. Quindi la decisione dei vescovi italiani è in ogni caso una conferma della bontà dell'appello ai sindaci italiani che il sottoscritto, grazie, insieme ad altri amici politici, ha rivolto ai sindaci italiani affinché consacrino le loro città al cuore innamorato. Innamorato, ciao! Immacolato di Maria! Continua ancora, stiamo attraversando uno dei periodi più drammatici della storia d'Italia, conclude il consigliere, e i problemi sovrastano enormemente le forze umane. Abbiamo quindi necessariamente bisogno di un aiuto dal cielo, come hanno compreso in circostanze simili i nostri antenati. Ritorniamo alla fede che ha guidato i nostri avi. Oh sì! Un saluto a Coso che mi ha raggiunto sul pad e vorrei sapere la sua opinione. Che cosa preferite? Una consacrazione oppure un affidamento? No, io veramente sono anche. Mi devo associare a Andrea Asciuti, perché sono anch'io effettivamente molto deluso dalla questione generale. In verità, però, non da tutto, perché sono molto, molto contento invece che la Lega si concentri esclusivamente su queste stronzate, così almeno non rischia di fare danni su altri temi. E non è l'unica notizia, ne ho un altro paio, soprattutto inerenti a quello che si diceva prima, si parlava di ufficialismo, e è un po' arrivato... Ah, non l'avete sentito? Ok, mi dispiace. Allora, vi giro un link anche sul pad, così vi potete guardare di che cosa stavo parlando. E comunque dicevo, ancora notizie dalla Toscana, andiamo a Firenze, dove il comune dice, sai che ora è un bel casino, sono tutti affollati, i bus, la tranvia, insomma, sarà un bel casino. Effettivamente la questione della mobilità è molto molto problematica in questa fase 2. Abbiamo sentito ieri su stampa rassegnata il Nannini dei COBAS dell'ATAF che spiegava le enormi difficoltà che ci sono nel riuscire a garantire ai pendolari dei tragitti sicuri. E quindi la buona idea è quella di puntare sulla mobilità ciclabile, va bene? Quindi anche a Firenze, grande annuncio del sindaco Nardella, nuove piste ciclabili, scooter a noleggio e taxi a sconto. E qui non possiamo che essere favorevoli, anche se non possiamo essere favorevoli via all'utilizzo della bicicletta in città, l'abbiamo detto e ridetto, ribattuto tantissime volte, e quindi dice Nardella, operazione Bartali, e lui naturalmente deve dare sempre questi nomi così, 12 km di nuove piste ciclabili, ulteriori 10 km di piste ciclabili provvisorie su viabilità fino ad oggi ad esclusivo uso dei mezzi a motore come via circondaria, via Pisana e viale Europa. Questo sicuramente ci fa molto piacere, è un articolo del Corriere Fiorentino che è uscito un paio di giorni fa. E non, appunto, non ci può fare altro che piacere, sicuramente ci dispiace che avvenga esclusivamente adesso, perché in verità i ciclisti e le cicliste fiorentine sono anni, anni e anni che rischiano la vita sulle strade. Un po' ci dispiace perché ci si ricorda della bici solo quando c'è da assicurare una produzione, fondamentalmente anche qui la bicicletta viene pensata come un mezzo per fondamentalmente per andare a lavorare, appunto, e chiuso, anzi vedi ora ce n'è bisogno, si fanno le piste ciclabili, è semplice, si trovano i soldi, si trovano i fondi, non solo la regione Toscana, come specifica la Nazione, addirittura non solo trova i soldi per le piste ciclabili, ma addirittura per promuove l'acquisto della bicicletta, quindi dovrebbero essere stanziati circa 10 milioni di euro, dice Rossi, per l'acquisto di nuove biciclette. Io sono un ciclista urbano e anche non urbano, utilizzo sempre la bicicletta, ma anche perché non c'ho la patente, quindi fo di necessità virtù, non è che, insomma, parliamoci chiaro, è l'unico mezzo che posso utilizzare, però ho sempre visto nella bicicletta anche altre funzioni, e non solo quella di essere un mezzo che ti porta nel luogo di produzione. L'ho sempre vista come, e qui mi riconnetto a quello che ci diceva Cobol, un mezzo estremamente libero, cioè che permette di uscire da quei percorsi predefiniti, sia fisici, ma non solo, anche metaforici. E quindi, in questo senso, le piste ciclabili è un tema molto dibattuto anche fra gli ufficialisti, quello delle piste ciclabili, perché se permettono da una parte di andare in bicicletta in modo sicuro, dall'altra invece sono dei percorsi predefiniti, prestabiliti, dai quali tendenzialmente non puoi uscire, altrimenti anche lì infrangi una legge, e quindi ciao. Quindi non so, che ne pensate? Piste ciclabili sì o piste ciclabili no? Dice Coso che si aspetta delle splendide piste, tipo quelle di Ponte a Verrazzano, vero? Sì, concordo. Molto belle. Citava anche... Cobol citava anche la Critical Mass, che lo sappiamo oramai è abbastanza noto, è un appuntamento non organizzato, va bene, casuale, più o meno casuale, che si svolge ogni ultimo giovedì del mese a Firenze, ma che naturalmente negli ultimi due mesi non si è svolto e ha riniziato e ripartito giusto due giorni fa, era lunedì, quando vi è stata la prima Critical Mass diffusa in Italia da più di due mesi. E lo definirei ancora non solo uno strumento, non solo un appuntamento, ma anche uno strumento di lotta vera e propria. Fra l'altro, a parer mio, potrebbe essere utilizzato in un futuro anche prossimo, perché la bicicletta, la Critical Mass, diciamo, intanto non infrangi alcuna legge, perché le biciclette possono stare in strada, possono bloccare totalmente una città, seppur non stando fermi, basta andare a passo lento. È possibile mantenere le distanze di sicurezza, è possibile appunto avere uno scambio con l'ambiente che ci circonda, come ci facevano notare gli ufociclisti, è possibile volantinare, è possibile veramente parlare, socializzare anche, e quindi forse potrebbe essere uno degli strumenti da utilizzare in un futuro per portare nelle strade e nelle piazze che in queste settimane ci mancano, quei temi a noi molto molto cari. E con questo io lascio lo spazio a una canzone, Officine Pan con Gianni Va Veloce. Ci sentiamo dopo, intanto sentirete anche la seconda parte della Compagnia dei Congiunti. Gianni va veloce, però ci può rincorrere il vento del tempo che va, comunque sia la logica corre, tramonti e più in là, ritroverà il coraggio di andare ancora più in su. Assumere un senso nel vento che va, la ruota sembra un'elica. Così. senso se il senso non glielo si dà e tutto va in discesa. Si viaggia facilmente di regione in regione. I confini sono sorvegliati dalle autorità. E poi c'è il male che non dorme mai. La gente sui balconi, sempre allerta, i loro grandi occhi spiano, registrano, pronti a spargere la loro indignazione anche su coloro che osano uscire mossi dalle più nobili intenzioni. Non vi è modo di sfuggire al loro vigile sguardo. È troppo difficile, non si può fare. Perché non ci andiamo in treno? Noi elfi abbiamo le frecce! Peccato che i biglietti siano finiti. Voi non capite. La gente sui balconi ci vedrà sempre e comunque. A proposito di frecce, io sto ancora aspettando il rimborso dell'anno scorso. Nessuno si fida delle ferrovie. La tua paura della gente sui balconi è infondata, Boromir. Tu ti fermeresti a guardare il primo cantiere, vecchio. Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Comunque, dice Coso, Bici Way of Life non può che trovarmi d'accordo, veramente sì, abbiamo bisogno di un cambio, di una svolta abbastanza radicale nei nostri stili di vita, visto che come abbiamo detto fin dall'inizio, come i più acuti hanno notato fin da subito, la questione ambientale è veramente determinante è stata determinante nella diffusione del virus, non solo. Quindi sì, abbiamo bisogno di una svolta sicuramente ecologica, e da questo, in questo passa sicuramente anche la minor emissione di agenti inquinanti attraverso le macchine, così come attraverso gli aeroporti. Ad esempio, questa è un'ulteriore notizia che riguarda gli aeroporti, riguarda l'aeroporto di Peretola. È stato riaperto in pompa magna giusto lunedì, con veramente grandi urla: stiamo riaprendo. Esatto, sì, stanno riaprendo, ma per chi, la grande domanda è, e anche perché. Anche qui ci si può un po' rifare la trasmissione di ieri. Stampa Rassegnata ha parlato di questa apertura di un aeroporto che in verità sembra più una questione politica, e quindi stanno cercando di riportare l'attenzione sull'aeroporto in vista di un nuovo assalto per la costruzione della nuova pista, per l'ampliamento in una città che però fra l'altro Ci sono veramente fortissimi dubbi sulla questione del turismo, visto che intanto è crollato e non si sa quando si riprenderà, ma anche sulla gestione del traffico aereo. È una faccenda molto molto complessa, visto che ci sono delle norme ben precise, ci saranno delle norme ben precise da rispettare, e fra l'altro non, cioè, chissà. E quindi non si sa bene ancora come funzionerà, però intanto loro hanno deciso di riaprire, non solo, ma addirittura c'è stata tutta una grandissima diatriba, perché la grande spinta per la riapertura dell'aeroporto parte, insomma, soprattutto dal sindaco di Firenze, ma anche da Italia Viva, che probabilmente con il seguito dei grandi interessi non mollerà un cazzo e ancora continuerà questa battaglia, però arrivando addirittura all'aggressione. È stata un'aggressione non fisica, per fortuna, bensì social, a Mauro Romanelli, che ha suscitato abbastanza lo scandalo di tutti e tutte, perché di fronte a un'obiezione civile da parte di Romanelli, loro hanno risposto con un post su Facebook dove, mettendo foto e nome e cognome, infamando, e quindi una sorta di linciaggio, quello che hanno provato a fare, però in verità gli si è rivolto contro, perché il linciaggio è avvenuto su di loro e hanno fatto veramente una figura pessima, pessima, pessima per chi sono stati paragonati ai metodi, sono stati un po' ai metodi leghisti, e probabilmente è vero questo del rigettare, no, sulle persone tutte le colpe attraverso i social. E quindi ancora una volta noi non possiamo far altro che schierarci per un no netto. L'aeroporto non ci serve, soprattutto in una città come Firenze, che chissà quando è che rivedrà i turisti. Quell'aeroporto serve esclusivamente a chi ha gli interessi, a chi ha grossi interessi, e niente, non saprò neanche più che dire su questa faccenda. Ha detto già tutto il TAR, ha detto già tutto il Consiglio di Stato, voglio dire, di che stiamo a parlare? Bene, ma andiamo oltre. E nel frattempo che aspettiamo le chiamate dal gruppo degli ufociclisti in ricognizione a Roma, introduciamo un po' l'altro tema attraverso le parole, la voce di Stefano Portelli, che è un antropologo e si occupa di gentrificazione, è un antropologo culturale. Ho avuto il piacere di conoscerlo questo inverno, è venuto a Firenze insieme a parte della redazione di Napoli Monitor a presentare una rivista, Lo Stato delle Città, una rivista che vede, diciamo, varie redazioni in varie città italiane, e porta avanti i temi della turistificazione, della gentrificazione, del diritto alla città. E mi colpì molto in quell'evenienza il pensiero di Stefano, soprattutto perché lui parlava della gentrificazione da un punto di vista antropologico, e quindi dal punto di vista dell'interruzione, della distruzione dei rapporti sociali che circondano le persone, che sono rotti, vengono distrutti in seguito all'espulsione delle persone da zone che magari un tempo erano popolari, poi attraverso questo processo via via diventano sempre più costose, sempre più alla moda, sempre più in. E così questo fenomeno ben preciso, studiato a tavolino, ha mangiato buona parte dei centri delle città italiane, ma non solo delle città, si può pensare anche ai piccoli paesi. Mi viene in mente, il primo che mi viene in mente potrebbe essere San Gimignano, o Quindi scusate, se no finisce la musica e parte subito Stefano. E quindi secondo lui la narrazione e le lotte che si oppongono alla gentrificazione dovrebbero partire proprio da questo, cioè dal narrare, dal raccontare le storie delle persone che sono state espulse, che hanno vissuto sulla propria pelle gli effetti della gentrificazione. E quindi quello che pensavo io, nonostante al giorno di oggi non si può parlare di gentrificazione, quello che ci sta succedendo è una cosa un pochino diversa, però ci sono comunque delle similitudini. E quindi ho detto, ma cioè, probabilmente per ripartire bisognerà rifarci da qualche parte, chissà se quel punto dal quale ripartire non è proprio la narrazione di quello che succede alle persone più in difficoltà, e quindi di conseguenza anche la ricostruzione di una rete sociale intorno a queste persone. È una cosa che fra l'altro sta succedendo anche a Firenze, abbiamo visto, possiamo vedere le tante iniziative di solidarietà e di mutuo aiuto messe su in particolare dagli spazi sociali, ma non solo, anche dal mondo dell'associazionismo, che hanno quindi a questo punto una valenza sia pratica, cioè se magna, si porta da magna alla gente, ma anche qualcosa di un po' più astratto, una ricostruzione dei rapporti sociali. Sentiamoci Stefano Portelli, ci sentiamo fra un quarto d'ora. Abbiamo al telefono Stefano Portelli, antropologo culturale, buonasera. Ciao. Ti contattiamo per alcune domande, soprattutto relative all'ambito di studio tuo, però soprattutto dei rapporti sociali. Intanto, parli molto spesso di gentrificazione, vediamo in questa fase, soprattutto nei centri delle città turistiche, come può essere Firenze, un fenomeno che sembra una degentrificazione, visto che quelle zone che si sono trasformate molto velocemente negli anni passati balzano all'occhio per essere vuote, quindi per affrontare una crisi diversa rispetto alle periferie che sono ancora abitate dai cittadini. Possiamo parlare di degentrificazione? Allora, a pezzo no, mi pare di no, perché in generale credo che fenomeni sociali così complessi come la gentrificazione non si arrestano per cause naturali, insomma è difficile pensare che questa epidemia, per quanto grande, inverta dei processi sociali che sono di ampio spazio, che riguardano la società intera, quindi sono processi che appena possono si riformano, no? Quindi diciamo, io penso che i processi sociali si arrestano per cause sociali, quindi sono d'accordo che ci sono grandi trasformazioni in corso, però credo che è molto presto per identificare diciamo inversioni di tendenza radicali rispetto al passato. Però il problema principale che io vedo, su qualunque risposta vi posso dare a questa domanda, risiede nel fatto che io sono antropologo. L'antropologia sicuramente è una parte filosofica, speculativa, eccetera, però soprattutto è una scienza empirica, per cui si basa su quello che si osserva e su quello che si chiama l'etnografia. Ora, in questo momento storico l'etnografia è impossibile. A me, per rispondere a una domanda vera, io dovrei passeggiare per le strade del centro e della periferia, parlare con migliaia di persone, centinaia di persone, e cercare di capire effettivamente come le persone stanno vivendo lo spazio. Ora, lo posso interpretare da quello che leggo su Facebook, nella mia bolla, o dalle telefonate che faccio con i miei amici, o dalle poche passeggiate che faccio in strada, o dalle incursioni un po' più ampie, però mi manca la mia scienza di base, mi manca proprio la fonte del sapere principale, che è l'etnografia in questo momento. Per cui io in questa fase, in realtà in questi mesi, io dubito un po' di chi trae conclusioni affrettate, no? Su è cambiato tutto o non è cambiato niente, o andiamo di qua o andiamo di là, il futuro sarà così, il futuro sarà colà. La mia impressione è che non ci abbiamo la più pallida idea di come sarà il futuro, e quindi è impossibile dire esattamente che cosa sta succedendo, perché si vedrà alla luce di cosa succederà dopo, no? In questo mi collego un secondo a una cosa che ho sentito poco tempo fa da un'antropologa argentina, Rita Segato si chiama, che dice che la battaglia sarà sulle narrazioni, cioè dobbiamo capire come, che cosa significa quello che stiamo vivendo e che narrazione gli diamo, che poi è quello anche che mi dicevi tu prima, anche dal punto di vista dei movimenti, come la interpretiamo questa cosa che sta succedendo. Ora, è vero che il centro si è svuotato, qui a Roma il centro si è svuotato di turisti, però il fatto che fosse pieno di turisti e vuoto di abitanti non è una grande novità, nel senso la cosa principale è che i centri si svuotano. In questo momento il centro di Roma è ancora più vuoto di prima, non so come dire, è chiaro che il turismo è un riempitivo temporaneo e continuamente mobile, no? Per cui la vera inversione della gentrificazione sarebbe quando il centro storico torna agli abitanti. Ora non mi pare che questa pandemia ha fatto tornare gli abitanti nei centri storici, quindi prima che si inverte questo fenomeno ci vogliono altri tipi di eventi. Ora, c'è un aspetto che però è importante, che è che diciamo che questa trasformazione ci sembra che stia avendo una ricaduta importante su certe cose che hanno a che vedere con lo spazio urbano e contemporaneamente che oltre, è strano perché è doppio, no, l'effetto che c'ha, cioè da una parte alcune cose che davamo per scontate si sono interrotte, come il turismo, la più importante è il turismo, ma anche il traffico per esempio, dall'altra alcuni fenomeni che erano già in corso, negativi diciamo, sembra che si sono esacerbati, per esempio la paura dello spazio pubblico, il rinchiudimento nelle case, no? la chiusura nella sfera privata, tutto questo che già era in corso adesso è esponenziale, cioè è arrivato a dei livelli assolutamente distopici, proprio da Black Mirror, no? Per cui io l'impressione che ho per costruire la narrazione di questa vicenda è che dobbiamo cominciare a districare un groviglio che si è formato su ogni elemento. Cioè... Allora, interrompiamo un attimo, abbiamo in collegamento gli ufficialisti. Eccoci. Eccoci. Allora. Buongiorno. Eccoci, sì. Buonasera. Buonasera, siamo sempre gli ufficialisti da Roma, e Cobol qui in questo caso anche con Lorena. Ciao, siamo un gruppo di tre, in realtà però il terzo in questo momento ce lo siamo perduti, succedono in queste, quando si mappa la città può accadere. E nulla, siamo fatti questo primo giro, come dicevo nel primo intervento, come dire, post fase 1 della pandemia. Era circa un mese e mezzo che non uscivamo di cognizione, anche se invece noi siamo soventi a fare ricognizioni per la città e muoverci in esplorazione. Come dicevo anche prima, abbiamo un blog dove raccogliamo tutte le nostre esplorazioni, che sono esplorazioni a cui seguono generalmente anche mappe alternative del territorio e sovrainterpretazioni, racconti del territorio stesso. E oggi siamo in missione, come vi dicevo prima, per capire un po' gli effetti di questa zona rossa, quindi dell'espansione incontrollata di questa zona rossa, che da evento temporaneo è diventato in questo caso evento mondiale che interessa l'intero pianeta e che appunto diventa quindi non più eccezionale ma quotidianità. Beh, insomma, intanto prima di tutto a me sembra molto strano, siamo qui in un parco di Roma Est, insomma, parchi a Roma Est ce ne sono moltissimi, siamo in un parco a Roma Est e la prima cosa che salta agli occhi ovviamente sono tutte le perimetrazioni che in questo momento poi sono state diverse, perché con la fase 2 l'accesso ai parchi è stato consentito, a patto appunto che vengono mantenute certe regole, però rimangono chiusi quelli che sono i giochi per bambini, le attrezzature per fare ginnastica. Che comunque appare, diciamo, se forse le aree per il gioco di bambini può essere pure comprensibile dal punto di vista magari di aggregazione non consentita, quelle che invece sono le attrezzature per la ginnastica individuale rimangono un po' un mistero perché vengano chiuse, però insomma questo mistero poi è presto svelato, no? Non da una analisi particolarmente profonda, ma da quello che è stato anche un po' detto in questi mesi. Il fatto, per esempio, la chiusura dei parchi ha significato soprattutto ha significato lanciare prioritariamente un segnale simbolico, ovvero il fatto che in qualche modo i divieti che erano stati posti erano seri, e quindi questo significava che un luogo come un parco pubblico, che generalmente è un luogo di ristoro e anche di distrazione, no? Anche spesso qui si smaltiscono un po' quelle che sono le ansie quotidiane, veniva chiuso perché aveva un significato soprattutto simbolico. Per quello pensiamo che fondamentalmente quando si transi da una norma che modo tenta più o meno coscientemente, più o meno in maniera coerente, di regolare un principio, quando si passa al valore simbolico del mantenimento in piedi della norma solo esclusivamente per dare una dimostrazione di potere, ecco, quindi insomma in qualche modo si travalichi un limite che in questi giorni, in questi mesi è stato più volte valicato, soprattutto, certo, come dicevo prima, dalle repressioni che abbiamo visto, che sono diventate un po' coadiuvante delle cure mediche, no? Al posto delle cure mediche arrivava la cenere che reprimeva quelle che erano le azioni ritenute igienicamente non compatibili. Ecco, quindi questo valore simbolico rimane, perché nei parchi vengono queste perimetrazioni tagliate, soprattutto qui a Roma, poi quando qualche cosa viene dismesso è subito un euro. Se rimane permanente sul territorio, sono venuti propriamente vigili, hanno tagliato le perimetrazioni, ma hanno lasciato le perimetrazioni così per terra senza rimuoverle. Quelli sono sicuramente il segnale più forte in questo momento di questa simbolica zona rossa che si è estesa su tutto il pianeta e che ha interessato soprattutto l'applicazione di tutti noi allo spazio pubblico. Si mantengono, come dicevo, in piedi invece tutte quelle che sono gli aspetti simbolici dell'allenamento con i singoli attrezzi, che non si capisce veramente perché debbano essere negati alla popolazione che fa uso di questi di questi spazi. Quindi diciamo, pure dei bambini, sull'area dei bambini è già forse un certo visto, forse è più comprensibile, anche perché i bambini no, si aggregano comunque, parliamo, vabbè, ammesso che insomma sì. Ecco, che cosa trovate? Trovate un'atmosfera omogenea realmente, una zona rossa? Guarda, allora, sulle questioni atmosferiche, anche questo è interessante, nel senso che, come dicevo prima, le atmosfere nelle città sono variegate, sono molteplici, sono multicolori, appunto, andiamo in giro proprio a rilevare questo tipo di differenze, attraversare questo tipo di differenze. È chiaro che dal momento in cui la zona rossa si estende a tutto il pianeta, città, a tutti i luoghi antropici, noi abbiamo una omogenizzazione delle atmosfere, non tanto in chiave architettonica antropica, cioè non tanto perché cambiano ovviamente le strutture, se non in questi frangenti temporali in cui abbiamo le perimetrazioni, in cui abbiamo i divieti, in cui abbiamo le prescrizioni ad attraversare, ma cambia soprattutto secondo noi e secondo un po' tutti coloro che hanno in questo periodo osservato e tentato di fare osservazioni un po' più acute di quella che è la positività rivolta all'ambiente, no? Questo, chiunque di noi si è trovato in questi giorni probabilmente con la spiacevole sensazione di sentirsi fuori legge solo perché usciva e non sapeva bene se la giustificazione, l'autocertificazione che aveva in tasca era lecita oppure no. E questa esplicazione, questa manifestazione di cosa arbitraria di norme che non hanno un chiaro codice di lettura. Quindi fondamentalmente sì, in questi due giorni probabilmente un po' l'atmosfera sta cambiando e noi la stiamo rinegoziando. In questo senso io credo che, per esempio, la lancio qui, ma è una cosa che ho già discusso per esempio con la CM di Parma e con anche dei compagni di Pescara, anche qui a Roma noi pacifisti ne stiamo un po' parlando, potrebbe diventare importante ad esempio sulla prossima CM nazionale, che come tutti sanno fa l'ultimo venerdì del mese, che dovrebbe essere il prossimo, dovrebbe essere il 29, potrebbe essere interessante tentare organizzare una critical mass non tanto simbolica come si è fatta fino adesso attraverso l'applicazione, queste ultime volte si è tentato di farla attraverso il critical mass, che è un'applicazione che basta installare sul proprio telefono, accenderla e dà un po' la sensazione del fatto che ci sono molte bici in giro che viene utilizzata veramente per muoversi dentro la critical mass. Ma probabilmente potremmo tentare, forse magari questa cosa verrà rilanciata, se insomma se interessa la critical mass stessa, si potrebbe tentare una critical mass più maculata, ovvero fatta in modo agibile da piccoli nuclei di persone che si muovono sui territori urbani, da Roma, Milano, Torino, soprattutto Torino, dove stanno a venire la cimona che poi è saltata, e che si potrebbero tenere ad esempio in contatto con un ponte radio, per esempio ci potrebbe essere una radio di Radio Wombat che funziona da regia di queste, e quindi ricreare la massa critica non tanto materialmente nel fatto che poi ci sono tante persone che in questo momento, in quel momento si incontrano con le biciclette e attraversano lo spazio, ma soprattutto che si tenga, come dire, costruiscono massa critica tenendosi in contatto via radio attraverso un mezzo che anche chi non è della CM o chi segue la radio può seguire, che potrebbe essere un primo atto di riappropriazione un po' più che simbolica dei territori fatti proprio con la bicicletta, quel mezzo che dicevamo prima, che in qualche modo è anche privilegiato rispetto a questo tipo di tendenze, proprio perché ha una sua vocazione all'attraversamento indisciplinato, ma non indisciplinato in senso coatto, indisciplinato nel senso di antinormativo, no? Non necessariamente legato alle norme dello spazio, quindi che viola lo spazio in questo senso, in quella direzione. Ecco, insomma, magari ne riparleremo se vi va, però questa potrebbe essere una prima, un primo segnale. Beh, insomma, chiudo velocemente, semplicemente per dire, almeno che Lorena, che sta con me, non voglia dire qualcosa, che appunto l'omogenizzazione di cui parlavamo è evidente, meno oggi magari nelle persone, ma poi bisogna fermarle, interrogarle e chiedergli che cosa provano, più in questi segnali lasciati un po' così alla rinfusa di un periodo che poi noi fondamentalmente abbiamo vissuto poco, probabilmente che è stato recluso dentro casa e che si è reso anche un po' poco conto di quello che accadeva, e oggi i segnali sono molto evidenti. Bene, allora ci sentiamo successivamente. Guarda, noi vediamo, perché noi grosso modo il giro che volevamo fare in quest'oretta l'abbiamo fatto. Ti direi che se vuoi ci possiamo comunque sentire se abbiamo qualcosa da dirci, se adesso noi magari ci facciamo un altro giro e vediamo, ma credo che grosso modo, sai, noi lavoriamo sul territorio in cerca poi di quelle che sono le categorie, appunto cercando di annusare quelle che sono le atmosfere diversificate anche nella città, lavoriamo proprio alla ricerca di quelle che sono le categorie che tentano, gli oggetti urbani che confermano o in qualche modo tentano di sgretolare le varie atmosfere che nei quartieri, nelle zone, nelle UDA, cioè nelle unità d'ambianza, si creano. Intanto sicuramente tutta questa perimetrazione temporanea che è stata fatta della città può essere annoverata secondo il nostro lessico da quello che è il punto di vista dei cosiddetti psicodissuasori, cioè ovvero di quegli oggetti che sono messi lì a dissuadere da un certo tipo di azione, da un certo tipo di far fare, no? o di voler fare. E questi quindi tecnicamente per noi sono degli psicodissuasori e rappresentano un po' quello che è un primo momento di disgregazione di certi tipi di atmosfere. Atmosfere che non sono sempre solamente positive, se noi troviamo degli psicodissuasori all'interno di atmosfere che sono deleterie, ben vengano, mentre quando invece questi psicodissuasori sono posti in maniera così di pedissequa lungo tutta la città, possono diventare un problema, perché significa che la città è prescritta proprio all'accesso, è prescritta e quindi è votata all'espulsione delle persone. Tra l'altro le città da anni lavorano in questo senso, no? La città moderna nasce intorno alla fabbrica, nel momento in cui nei suoi fasci occidentali l'importanza della fabbrica viene meno e la città diventa una sorta di macchina centrifuga che comincia a espellere i corpi perché nelle città non se ne fa più niente. Questi sono i fenomeni per cui i centri storici si svuotano, si riempiono sempre di più le conurbazioni, le città assumono sempre più l'aspetto di corridoi per il lavoro pendolare, no? Perché la gente viene continuamente. Una situazione sicuramente interessante che può essere fatta è questa, insomma, tutta questa retorica che è stata fatta, per esempio, adesso sull'uso delle bici, no? Noi veniamo da un periodo in cui le bici erano viste come fumo agli occhi da tutti, in cui sono pochissime le esperienze governative regionali che si impegnano in politiche che siano in qualche modo pro bici. Invece adesso si sta scoppiando tutta questa sorta di retorica sulla fluidità che le bici potrebbero offrire dentro le città. Su questo non bisogna ingannarsi, secondo noi, perché ovviamente è una fluidificazione, è uno sotto gli occhi di tutti, ma è un modo, come dire, strumentale di guardare alla bicicletta, che guarda in realtà la fluidificazione dei processi neuronali, sicuramente alla fluidificazione o alla semplificazione della vita della gente nella città, perché altrimenti se no la bici sarebbe stata usata, la bici e mezzi alternativi di trasporto come mezzi pubblici anche in teoria di meno sospetti. Invece noi ci troviamo in questa situazione qui, tanto più allora secondo noi l'idea di fare oggi in questo momento tentare di fare senza forzare, quindi non fare critica, ma scontro qualcuno, ma proprio a favore di un modo alternativo di cominciare a vedere lo spazio, perché oggi lo spazio è concesso solo in, no, in questa fase, è concesso solo in termini commerciali, in termini di, come dire, di accesso a sempre più esercizi pubblici, esercizi privati, che può essere una cosa assolutamente giusta per chi deve lavorare, però è sospetta, perché insomma non è, sicuramente non è fatta per far recuperare le persone, non per ridare lo spazio alle persone, ma sicuramente per l'economia, quindi è non riusciamo. Ecco, la bici in questo momento diventa uno strumento funzionale anche, quindi cerchiamo prima possibile di sottrarla proprio da questa metafora fondamentalmente. Bene, allora, ma troveremo sul blog un report di questa ricognizione, immagino. Guarda, sì, noi abbiamo fatto un percorso, l'abbiamo fatto proprio come dicevo, per un po' per accertare quella che è quello che è la situazione oggi in questo spazio romano, ma è uno spazio in realtà che noi avevamo già percorso. In realtà è uno spazio di Roma Est, dove siamo? Qui più esattamente? Via di Villa Gordiani. Via di Villa Gordiani, insomma. Villa De Santi. Villa De Santi, cioè, quindi in realtà andando sul blog in questa ricognizione tu c'è, perché questo tipo di percorso, che è una zona un po' simul rurale di Roma, già lo si può trovare, però magari sì, diciamo che forse se voi mettete poi la cosa in streaming possiamo fare una pagina in cui magari raccogliamo qualche foto, mettiamo qualche foto che abbiamo raccolto. Tanto ci siamo fatti una litigata perché non ci eravamo accorti di essere passati in una proprietà privata, outing, diciamola tutta, esatto. Era già successo altrettanto, solo che nel senso opposto. Sì, vabbè, insomma, siamo passati in una proprietà privata e comunque si vede che questa voglia di rivedere le persone, no, dopo un periodo, però, non c'è. È stranamente uno spazio molto aperto e verde all'interno della città, fra un quartiere e un altro, cioè fra Torpignattara e Centocelle. Sì, uno di quei luoghi ambigui in cui non si capisce, sì, in realtà se sono proprietà private o no. Con capannoni X vicino. Siamo passati perché è una scorciatoia e siamo stati inseguiti da un automobile, dal proprietario, che ha sentito il dovere di inseguirci fino all'altro capo. Con testa coda. Esatto, del suo terreno per reagirci e minacciarci. Vabbè, insomma, detto questo, che fa parte un po' dei rischi delle ricognizioni metropolitane, c'era già accaduto. Detto questo, insomma, è un posto che abbiamo già in qualche modo, non è una ricognizione nuova. Noi ti rubo un altro momento per dirvi semplicemente che era un po' quello che non avevamo detto prima, la descrizione del positivismo. Cioè abbiamo due tipi di ricognizioni, cioè abbiamo una diurna che è simile a questa che abbiamo fatto oggi, che sono un po' più approfondite, da cui poi nascono dei report, nascono delle mappe proprio vere e proprie. E poi ci sono delle ricognizioni invece che sono prettamente notturne e che sono un po' più folcloristiche, che vedono più persone, siamo 20, 30, 40 persone che si muovono, fanno sempre un'attività di ricognizione e di mappatura alternativa del territorio, ma in maniera più folcloristica, e queste uscite terminano ovviamente con questi banchetti esoplanetari vegan, diciamo a tema vegan, di benvenuto per forme di vita extraterrestre. Perché proprio nella ridefinizione dello spazio urbano, la prima cosa che noi ridefiniamo è la nostra sensibilità rispetto all'alterità, e quale altra alterità ci può essere più altra se non quella di un essere che proviene da un altro pianeta, qualora gli oggetti volanti non identificati, gli UFO fossero per alcuni appunto forme di vita extraterrestre. Quindi ecco, questa che abbiamo fatto oggi è più sicuramente una esplorazione ricognitiva, da cui non uscirà proprio un vero e proprio rapporto, perché come vi dicevo l'abbiamo già fatta, però sì, insomma, ci piace farla anche insomma un po' in collaborazione con voi, e soprattutto ci serviva per rimettere i piedi fuori casa e per cominciare un attimo a rimappare un minimo il territorio. Però insomma, in questi giorni sicuramente ci impegneremo in nuove ricognizioni. Noi siamo da un po' di anni impegnati in un lavoro sistematico di ricognizione sulla zona di Roma Est, insomma, sul blog trovate tutto, e abbiamo fatto altre ricognizioni anche in altre città, abbiamo fatto piccole sporadiche comparse dove abbiamo tirato fuori piccoli report, ma su Roma, insomma, essendo noi di Roma, il lavoro è più sistematico, è più, non l'abbiamo ancora finito, ma sono più sistematico. Non ci sono più posti di blocco, però. Sì, ci sono molti meno posti di blocco, una condizione, sì, molte poche macchine in giro, molta gente. Diciamo un po' meno, però da ieri comunque l'aria è proprio cambiata. Sì, l'aria fondamentalmente è cambiata, immagino pure a Firenze, si può immaginare in qualsiasi città. Firenze, sì. Meno possa essere simile. Bene, allora dai, magari vi aspettiamo a Firenze per una ricognizione, Magari, molto volentieri. Una ricognizione focistica a Firenze ci manca, in realtà, quindi siamo venuti a presentare il libro a Firenze, ad Olveriera, ma poi una ricognizione non l'abbiamo reale non l'abbiamo mai fatta, quindi magari potessimo fare un po' di mappatura alternativa di mappe sensoriali su Firenze molto volentieri. Voi pensate a questa proposta eventualmente di se vi può interessare di fare un ponte radio per una prossima eventuale CM maculata sul territorio nazionale, ma magari ne riparliamo, magari anche con la CM stessa, insomma, adesso è solo una proposta che parte da Roma, vi capite se un po' insomma verrà accettata, potrà essere interessante per il resto delle realtà che sono sul territorio. Benissimo, allora che posso dire? Buon rientro a casa a questo grazie a voi del supporto radio. No, grazie a voi, è stato un grande piacere. Ciao, a presto. Siamo con Stefano Portelli, abbiamo interrotto a metà il suo discorso, ma lo riprenderemo appena finita la canzone di Eugenio Finardi, Extra per Extra. Per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano, perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante, e si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che nascosto tra le pieghe della mente, e la notte sdraiato sul letto guardando le stelle dalla finestra nel letto con un messaggio voleva prendere contatto, diceva extraterrestre portami via, voglio una stella che sia tutta mia, extraterrestre dimmi a cercare, voglio un pianeta su cui ricominciare. Voglio tornare per ricominciare. E torniamo da Stefano Portelli, stavamo parlando delle narrazioni da mettere sul campo, da mettere in campo per affrontare questa nuova situazione una volta entrati nella fase 2. Eccoci qua. In questo evento confluiscono degli aspetti trasformativi colossali e degli aspetti invece che sono veramente distopici, terrificanti. E siccome sono tutti intrecciati insieme, è molto difficile capire effettivamente che cosa sta succedendo, mi spiego? Per cui, per esempio, questo fatto che lo spazio pubblico svuotato, chiaro, non ci sono turisti, fantastico, Airbnb, tutti quelli che investigano su Airbnb adesso sono nei guai, non ci dispiace quasi per niente per loro, tranne per chi ci aveva capito veramente la stanzetta che affittava, pazienza, insomma, questo lo possiamo capire, ma sappiamo bene che Airbnb è un fenomeno che riguarda soprattutto grandi investitori che hanno un sacco insomma, di Airbnb e ci fanno un sacco di soldi, questi hanno perso il loro mercato, probabilmente questo avrà delle ricadute sul valore immobiliare. E ieri, l'altro ieri mi pare c'è stato un articolo su Affari e Finanza che diceva che il mercato immobiliare è calato mi pare del 16%, insomma, scenari anche lì, inventando un futuro, immaginando un futuro non si sa. Contemporaneamente c'è quest'altro aspetto dello svuotamento dello spazio pubblico. Ora l'urbanistica, diciamo, tutta la pianificazione urbana contemporanea, moderna, diciamo dall'Ottocento, ha il fine di separare, confinare, dividere le città, in segregare, no? In spazi di un tipo, spazi di un altro tipo, un certo tipo di popolazione di là, un certo tipo di là, lo spazio pubblico deve essere usato soltanto per transitare, non per rimanerci, quindi si rendono sempre più difficili una serie di attività fatte in strada, tutto il discorso del decoro, tutto questo, c'è una storia di tutto di questo, demonizzazione dello spazio pubblico, no? Adesso abbiamo un virus, quindi sembra il modo perfetto per portare avanti questa demonizzazione dello spazio pubblico. Non è che al virus gliene frega niente della storia urbanistica occidentale, però a noi che lo viviamo ce lo ricorda. Perché? Perché l'urbanistica europea, diciamo l'urbanistica moderna, le radici sono coloniali. L'urbanistica coloniale come funzionava? Indigeni di qua, bianchi di là, ebrei di qua, musulmani di qua, cristiani di qua. Questo modello che prima di tutto si è sperimentato nelle colonie, soprattutto in Nord Africa, poi è passato alle città europee e alla fine è arrivato fino agli ambiti più ristretti, più anche periferici delle città nostre, no? Per cui appunto questa è la zona dove devono vivere gli zingari, questa è la zona dove devono vivere i ricchi, questo è il quartiere segregato dei poveri e questa è la gated community dei ricchi, no? Questa urbanistica di segregazione in questo momento, naturalmente il nemico principale è la strada, perché la strada è il posto dove tutti si incontrano, dove tutti, la piazza, no? dove possono succedere cose, dove si danno delle alleanze inaspettate, dove si svolgono le feste, dove si svolgono le rivoluzioni, no? E chiaramente in questo momento in cui la strada, veramente, diciamo, l'ordine, la forza pubblica ha il potere mai visto in tempi di democrazia di chiederti perché stai nello spazio pubblico, che in qualche modo già c'era. Perché la facoltà dello Stato di immettersi nel perché stai nello spazio pubblico già esisteva, in questo momento gli sono stati dati i pieni poteri, quindi a noi ci sembra che questo fenomeno stia toccando delle vette mai viste prima, però in realtà il grosso discorso lo possiamo fare quando l'epidemia finirà, se finirà, cioè il problema è se questa situazione si mantiene dopo e che conseguenze avrà, perché è possibile anche che dopo il virus invece sia una ripresa collettiva dello spazio pubblico, perché a tutti noi è vero di poter, tutti si sono accorti quanto era importante, no? Quello spazio che non è casa, chiesa, lavoro, e che è invece la strada, che fino adesso era stata demonizzata, e all'improvviso ci rendiamo conto è una tragedia rinunciare a questo spazio, per cui come reagirà la popolazione a tutto questo? Secondo me è tutta da scrivere e va tutta vista. L'unica cosa che posso dire per chiudere è che ho l'impressione, ma è un'impressione, che nelle narrazioni che stanno proliferando su questo virus, da quando ha cominciato Agamben con l'analisi sua, a tutto, diciamo, a tutto quello che, è uscito in questi due mesi, io ho l'impressione che ci sia, lo scrivo un po' di tempo fa per un articolo che uscirà sullo stato delle città, da adesso a maggio, che c'è un po' troppo Foucault e un po' poco Camus. I due autori sono praticamente contemporanei, no? Certo. Foucault c'ha questo testo sulla peste, no? La città, appunto, il potere che no? separa, organizza la vita dei cittadini per contrastare l'epidemia, ma poi struttura un sistema di separare, organizzare, controllare, vigilare e castigare, che poi vale anche quando non ci sono epidemie. Ora, Foucault descrive un ideal tipo di governo, cioè un concetto di governo, io me lo stavo leggendo di recente. Foucault non sta parlando di una realtà, sta parlando di un ideale. È chiaro che di questo ideale tu vedi la pratica quando il poliziotto per strada ti dice dove stai andando a trovare un congiunto o un amico. È chiaro che lì ci sta quel dano, no, di questo concetto che sta cercando di descrivere, di governamentalità che sta cercando di descrivere Foucault. Però quello che mi è mancato di più è la descrizione della vita reale, cioè di come le persone stanno reagendo a questa situazione, perché le persone reagiscono in modi inaspettati, ma addirittura i poliziotti reagiscono in modi inaspettati, cioè quello che effettivamente succede per strada io lo vedo quando scendo in strada, non lo vedo leggendo la leggendo gli ideal tipi di Foucault, capito che cosa sto dicendo? Certo. A me questo mi è mancato moltissimo in questi due mesi. Quando, se leggete La peste di Camus, che è un libro straordinario, la cosa fantastica che lui riesce a fare è descrivere proprio naturalisticamente come reagiscono le singole persone, come si sentono delle volte tutte unite, oppure delle volte si sentono tutte nemiche le une delle altre, e queste due sensazioni che si incrociano, si intersecano l'uno con l'altro nella micro vita di ognuno e nella collettività. E tutta questa complessità sembra un territorio inesplorato. Cioè questa cosa sta succedendo intorno ai nostri occhi, e io lo vedo quando mi affaccio dal balcone e vedo quello che mette la bandiera italiana e poi contemporaneamente però fa mega pranzi sul terrazzo. E allora, cioè, come rientra negli ideal tipi del cittadino obbediente o il ribelle, delle persone che sono sempre complesse, no? Questa è la parte che a me manca un po', che io faccio, insomma, faccio il mio simbolo è Camus, no? Questa capacità dell'osservare naturalisticamente che cosa succede. Se quando riusciremo a vedere come realmente stanno reagendo le persone, tutte o il più possibile, cioè a fare etnografia, allora potremmo dare una rappresentazione seria di quello che sta succedendo. Non vuol dire che non stanno succedendo delle cose allucinanti per quanto riguarda lo spazio pubblico. Adesso sentivo mia figlia che sta facendo la video lezione con la maestra, che gli chiedeva a un'altra bambina, che era il compleanno della madre, come avevano passeggiato come avevano festeggiato, e la povera bimba gli dice abbiamo fatto una passeggiata, e la maestra diceva vedete, ci stiamo inventando nuovi modi per festeggiare, per esempio lei ha fatto una passeggiata. È terrificante questa cosa, no? Che una passeggiata nello spazio pubblico è considerata una festa in questo momento, no? Quindi nella storia generale dell'urbanistica, in cui le feste in strada sono sempre più criminalizzate, chiaramente a noi questo ci fa rabbrividire, perché ci sentiamo che sta succedendo una cosa grande. No? Con le varie attività di lotta che sono venute fuori in queste settimane, in questi mesi, diciamo le unie che hanno percorso lo spazio pubblico sono quelle di mutuo aiuto, soprattutto alimentare, fare la spesa alle persone che non possono uscire di casa. Però questo a volte rischia di trasformarsi in mero assistenzialismo. Può essere questo comunque costruttivo alla costruzione dei rapporti sociali positivi e lungimiranti? Certo. La sensazione che siamo tutti un po' ridotti a fare assistenzialismo, penso che ce l'abbiamo tutti e tutte, ed è sicuramente vero, nel senso, nel momento dell'emergenza, quando vedi persone che hanno bisogno di mangiare, è chiaro che non puoi priorizzare le attività di coscientizzazione se la gente non mangia, no? Quindi a me sembra fondamentale che le realtà territoriali di movimento si sono articolate subito, quasi subito su questa questione, anche sfidando l'ideologia dello stare in casa, no? Quindi sicuramente non c'è dubbio che è una cosa molto positiva. Io ho l'impressione che molti stiano usando questa cosa per far passare dei messaggi e per creare dei legami che prima in tempi normali diciamo non c'erano. Ieri all'assemblea sullo sciopero degli affitti c'era un compagno da Macerata che diceva che loro hanno questa si stanno appellando a un articolo del decreto Cura Italia che permette di muoversi per chiunque è imparentato con proprietari di aziende agricole, perché si dà per scontato che tu vai a aiutare i tuoi parenti nei campi, e loro usano questa cosa per muoversi liberamente e chiaramente portano cibo, portano i pacchi alle varie famiglie, ma ci infilano dentro il volantino per sciopero degli affitti, per esempio, e lo usano, no? Usano questa attività che chiaramente non gli vuoi di niente perché è volontariato, capito? Stiamo muovendo perché siamo membri di un clandestino, quello che è. Però nel frattempo in realtà stanno facendo attività politica e stanno anche entrando in quegli spazi di intimità a cui prima per esempio magari non avevano accesso, no? Io questo ce l'ho questa impressione, nel senso che è chiaro che c'è una parte di tappare le falle, però un'altra del fatto che siccome la gente è molto più vulnerabile ci sono più occasioni di contatto. Cioè io vivo in un anno in questo palazzo, non conoscevo nessuno, non ci salutavamo neanche, adesso sappiamo tutti i nomi gli uni degli altri, ci siamo aiutati già 10.000 volte a portare cose da una parte e dall'altra, a fare la spesa o qualunque cosa, ed è chiaro che lì c'è sempre la possibilità, la potenzialità di un lavoro politico, no? Quando si rompono certe barriere entrano delle possibilità. Ora è chiaro che se uno rimane con questa idea della dicotomia, no? O è lavoro assistenziale o è lavoro politico, allora ci si sente molto ridotti a fare assistenzialismo, però se si vede l'assistenzialismo come una modalità per poter accedere a degli ambiti in cui si può o da cui si può fare lavoro politico, io credo che anzi le possibilità si stanno anche ampliando in questo momento. Preferenziali, hanno vinto le metropolitane, hanno vinto le rotonde, i ponti a quadrifoglio, alle uscite autostradali, hanno vinto i parcheggi in doppia fila, quelli multipiano, vicino agli aeroporti, le tangenziali alle 8 di mattina e i centri commerciali nel fine settimana. Hanno vinto le corporazioni infiltrate nei consigli comunali, i loschi affari dei palazzinari, gli alveari umani e le case popolari, e i bed and breakfast affittati agli studenti americani. Hanno vinto i superartici a 3.000 euro al mese, le puttane lungo i viali, sulle strade con solari. Hanno vinto i pendolari, ma ha perso la città, ha perso un sogno, abbiamo perso il fiato per parlarci, ha perso la città, ha perso la comunità, abbiamo perso la voglia di aiutarci. Sui tetti dei palazzi, le luci lampeggianti dei semafori di notte, i bar che aprono alle 7. Hanno vinto i ristoranti giapponesi che poi sono cinesi anche se il cibo è giapponese, i locali modaioli frequentati solamente da bellezze tutte uguali, le montagne di immondizia, gli orizzonti verticali, le giornate a targhe alterne e le polveri sottili. Hanno vinto le filiali delle banche, hanno perso i calzolai, e ha perso la città, ha perso un sogno, abbiamo perso il fiato per parlarci, ha perso la città, ha perso la comunità, abbiamo perso la voglia di aiutarci. Lo porterò io. Porterò io l'anello fuori dalla regione. Tanto le scuole riaprono a settembre. Io farò finta di essere tuo nonno, caro nipotino dai piedi orribili. E visto che ormai è diventata una farsa, sarò tuo zio. Hai il mio affetto stabile. È la mia autocertificazione. È la mia mucchina. Tu forse non lo ricordi, piccoletto, ma i nostri casati sono legati. Io e te siamo cugini di terzo grado. Direi che abbiamo un'ottima scusa. Ancora grazie a Stefano Portelli, nel podcast sicuramente l'intervista sarà completa e intera, anzi ci aggiungerò anche una piccola cosa che poi sentiremo in seguito. Intanto abbiamo inoltre sentito la canzone Ha perso la città di Niccolò Fabi e purtroppo questa è abbastanza veritiera, ma speriamo che possa cambiare. Noi ci apprestiamo a chiamare Antonio Fiorentino del laboratorio per un'altra città con come usanza il lavoro di per un'altra città compare molto spesso su una piattaforma, appunto per un'altra città.org, tanti articoli, in particolare ne è uscito uno due giorni fa, mettiamo a frutto la crisi, manifesto per la riconquista popolare della città. È un po' il loro pensiero su quanto sta succedendo, su quanto è successo e anche come loro sono abituati a fare. Vi sono delle proposte ben chiare, molto precise su da dove rifarsi per andare a migliorare. Lo chiamiamo subito. Siamo con Antonio Fiorentino, buonasera. Sì, ciao Silvio, buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Tutto bene intanto? Sì, per fortuna tutto bene, sono relegato a casa e per ora conviviamo con questa situazione di emergenza sperando di uscirne nella migliore delle condizioni possibili. Ecco, il lavoro è tanto, sicuramente i cambiamenti sono stati grossi. È uscito un articolo scritto dal gruppo Urbanistica di Per un'altra città, si intitola Mettiamo a frutto la crisi, manifesto per la riconquista popolare della città. Se ci vuoi fare un po' un sunto dei pensieri, dei fatti che vi hanno portato a scrivere questo articolo. Ma senti, innanzitutto come posso dire, la crisi conclamata di un modello che è quello della monocoltura turistica, cioè un modello economico che questa amministrazione comunale e quelle precedenti, l'amministrazione Renzi, Nardella, eccetera, hanno perseguito a tutti i costi e ora se ne stanno vedendo le conseguenze. Firenze è in una crisi nera, spaventosa, lo stanno dichiarando da più parti, sia le espressioni politiche della città che quelle economiche. E io penso che non vorrei essere nei loro panni, perché è davvero drammatica la situazione, però sono lacrime di coccodrillo queste qui, perché è da anni che stiamo ripetendo: guardate che la monocoltura porta con sé delle gravissime conseguenze, ma era talmente evidente anche al di fuori di una pandemia così scoppiata improvvisamente, ma anche da più parti prevista, e invece si è perseguito un modello fondato sulla speculazione e sulla rendita turistica, sulla rendita immobiliare, sui nuovi padroni della città, le multinazionali, che hanno acquistato grandi complessi e ora piangono miseria. Ecco, questo mi sembra un po' davvero problematico, e allora il nostro intervento cerca di fare il punto della situazione. Cioè, da un lato vanno stabilite le responsabilità, cioè qui ci sono delle responsabilità oggettive di una classe politica e di una classe economica che ha fallito i propri obiettivi, ma da un lato, e dall'altro lato ha peggiorato le condizioni di vita degli abitanti, delle comunità locali. Allora, il tema da prendere in considerazione è appunto questo: possiamo approfittare di questa crisi per poter prefigurare un futuro, ma partendo dal presente immediato, quindi prefigurare attuare un presente, prefigurare un futuro che faccia giustizia degli errori commessi e che sia fondato su una ripresa fondata su di una giustizia sociale, economica, ambientale, e che davvero chiuda questa stagione della monocoltura turistica. Ecco, sì, tra l'altro voi mettete su un elenco delle trasformazioni nelle aree UNESCO, tutte le proprietà pubbliche alienate, che sono veramente tantissimi, tantissimi metri cubi, di cui alcuni, fra l'altro, ora, alcuni sono già in uso, già pronti e anzi già inaugurati da un po' di tempo, altri invece no, altri sono sì stati alienati, ma in verità ancora non se ne fa niente. Qui vedo, non lo so, ad esempio gli alberghi o le centinaia e centinaia di suite e camere di lusso, cioè che ne faremo di tutte queste cose, certo, di tutti questi beni? Rimarranno vuoti ancora? Rimarranno nelle mani di queste holding? Ma sì, dovrebbe approfittare, secondo me, del nuovo piano urbanistico della città. Cioè, la città ha questa occasione. È scaduto il regolamento urbanistico, cioè che ci ha governato in malo modo in questi 5 anni, C'è da ripensare il piano urbanistico futuro che ci governerà nei prossimi 5 anni. Allora, questa amministrazione davvero ha intenzione di cambiare il segno delle proprie politiche? Mettiamola alla prova, cominciamo subito con alcune questioni essenziali. Innanzitutto si dovrebbe partire da un patrimonio pubblico, dai beni comuni territoriali che non devono essere messi in vendita, cioè questa amministrazione deve essere messa di fronte alla revoca del piano delle alienazioni dei beni pubblici. Noi abbiamo già in gran parte purtroppo alienati, svenduti a multinazionali e grandi gruppi immobiliari. Allora, noi abbiamo una ricchezza intrinseca all'interno della città da cui poter ripartire. Allora, uno dei punti fondamentali è appunto questo: revocare il piano delle alienazioni, individuare quartiere per quartiere quali sono i beni pubblici, i beni comuni disponibili e cominciare a creare, a partire dai movimenti di base, dai gruppi di cittadini, di associazioni che sono già presenti, sono già attivi, che operano nel territorio, che operano nel quartiere. Abbiamo visto anche tutte le forme di solidarietà attiva durante la crisi del coronavirus. Allora, a partire da queste micropolitiche territoriali di quartiere, cominciare a invertire il segno degli interventi, cominciare a favorire la riappropriazione della città da parte degli abitanti. Cioè, è questa la grande sfida che dobbiamo mettere in atto. Questa amministrazione è in grado di fare questo tipo di operazione? Ecco, voi vi rifate a proposito ai comitati di quartiere nell'articolo che vennero fuori nel post alluvione del 1966. Che ruolo svolsero all'epoca e poi come si sono comportati, come magari sono anche andati a morire, Ma senti, c'è stata un'esperienza straordinaria, Silvio, dei comitati di quartiere post-alluvione. Siamo uno per tutti quello dell'isolotto, delle piagge, delle cure, ed è proprio a partire dalla presenza fattiva dei comitati di quartiere che Firenze è riuscita a risollevarsi da quella grave crisi. Qui siamo di fronte ad una crisi analoga, è un'alluvione sanitaria. Allora, probabilmente i protagonisti devono tornare ad essere i cittadini, devono tornare ad essere gli abitanti, cioè io li chiamo i custodi, sono i custodi e tutelano il proprio ambiente di vita, la città come ambiente di vita fondamentale. Dai comitati di quartiere del post alluvione, poi è un po' storia questa, sono nati i comitati per le autoriduzioni negli anni 70, quindi c'è stata una continuità, un decennio di grandissima partecipazione. Firenze è stato un modello in questo senso a livello nazionale. Allora penso che si debba prefigurare un qualcosa del genere, cioè laddove noi abbiamo di fronte due compiti fondamentali, secondo me. Da un lato mettere assieme, avere una visione d'insieme della trasformazione, delle trasformazioni possibili su basi di giustizia sociale, economica ed ecologica, lo ripeto, questo è fondamentale. Quindi da un lato conflitti e progetti che viaggiano assieme su una visione che può ricomporre e che dovrebbe ricomporre, quindi questo è il secondo punto, ciò che ora è frammentato, cioè una serie di iniziative, una serie di soggettività che sono apparentemente frammentate possono trovare in una visione complessiva, unitaria sulle trasformazioni della città un modo di cooperare. Il professor Giorgio Pizziolo parla di oasi urbane, si parla di laboratori di sperimentazione, si parla di nuova modalità di partecipazione, di prefigurazione di una città diversa. Noi non dobbiamo lasciare in mano agli speculatori, agli arraffoni, la determinazione delle regole di trasformazione di questa città. A me sembra fondamentale questo. Ecco, dall'altra parte vediamo invece un'amministrazione che si è barricata all'interno delle mura, una giunta soprattutto che si è barricata all'interno delle mura di Palazzo Vecchio, lasciando praticamente spazio, nessuno spazio alle voci dell'opposizione, che se n'è uscita con voci da guerrafondai, i bazooka urbanistici, si è sentito certo. Dire che il turismo non va più e bisogna puntare sulla industria high tech. Abbiamo visto che lunedì è stato riaperto l'aeroporto, che sembra un atto più politico che pratico, perché chi lo prende l'aereo? E dall'altra parte vediamo invece una grossissima difficoltà ad attivare delle mobilitazioni per delle certo. limitazioni che oggettivamente certo. ci sono. Certo. Quindi dove lo troviamo lo spazio per portare a galla temi assolutamente importanti come questi che stai esponendo? Sì, certo, le difficoltà sono ampie, sono notevoli. Intanto sì, la limitazione della mobilitazione, però io penso che dovremmo cominciare a usare. A Tel Aviv c'è stata una manifestazione dei pacifisti dove erano rispettate le distanze di sicurezza e nonostante il clima pesante che si respira in quella città, la manifestazione ha avuto un proprio successo, insomma, è andata avanti. Io penso che si debba un po' approfondire questi discorsi di riappropriazione, non soltanto di riappropriazione, ma anche di evitare di procedere per parti separate. Cioè, questa amministrazione sta anche in questa crisi proseguendo negli errori fondamentali, cioè di mancanza di visione d'insieme, di mancanza di visione sistemica degli interventi. Secondo me davvero sono nel panico, non sanno che fare, addirittura hanno riesumato personaggi, non so se hai seguito i vari interventi sulla stampa locale, che operavano ai tempi della Baldassini e Tugnozzi, cioè si parla di zombie, di persone mummificate che sono state tirate in ballo per cercare di trovare qualche idea, ma questi vanno avanti per idee balsane, per trovate, cioè riportiamo gli abitati in centro, ma come li porti? Li deportiamo in centro? Poi c'è il luogo comune dell'ITEC, quali sono, per quali prospettive, eccetera. Allora, io penso che si debba riscoprire un pochettino, lo dicevamo nel manifesto che abbiamo proposto, uno dei punti dice: Firenze non è sana se la piana è malata. Allora, bisogna recuperare una visione d'insieme del territorio e dell'ambiente in quanto ambiente di vita delle comunità locali. Comunità locali che si devono far carico e si fanno carico e hanno il piacere di farsi carico di poter gestire le trasformazioni del territorio. Allora, intanto superare il diaframma, lo iato, la separazione tra la città e il proprio contesto. Decidere di operare una riconversione ecologica favorendo le trasformazioni sull'agroecologia, sulle trasformazioni di tipo ecosistemico, nuova imprenditorialità, eccetera, avendo a monte una garanzia del reddito universale di esistenza. Oppure addirittura è possibile poter immaginare, ne parlava Alexander Langer anni fa, una sorta di cassa integrazione ecologica, cioè laddove si possono prospettare nuovi nuova modalità di intervento, allora garantire del reddito che favorisca questa transizione, da un lato. Dall'altro lato garantire che cosa? Che la conversione ecologica rappresenti l'orizzonte delle trasformazioni della città di Firenze. Firenze e il suo territorio, Firenze e il suo contado si integrano in maniera tale da recuperare gli aspetti positivi. Allora acquisterà un senso il ripopolamento, acquisterà un senso il lasciare i varchi, i corridoi ecologici in maniera tale che gli spazi possano dialogare tra di loro, acquisterà un senso riappropriarsi dei luoghi pubblici, per proporre mercati contadini di quartiere che rimettano assieme le attività economiche della bioregione, chiamiamola in questo modo che mi sembra la maniera più corretta, della bioregione del sistema Firenze-Prato-Pistoia, entro cui la città di Firenze si colloca. Allora, se noi inquadriamo le trasformazioni della città all'interno di una conversione ecologica profonda, seria, ecco, allora le cose cominciano a cambiare. Non avviene il tutto nel giro di pochi giorni, non avviene il tutto nel giro di poco tempo. Però c'è anche un altro fattore fondamentale, secondo me, che paradossalmente i fondi per la trasformazione e la conversione possono esserci, perché quando si parla di immettere liquidità nel sistema economico per poter incentivare la ripresa economica, eccetera, cosa vuol dire incentivare la ripresa economica? Noi vogliamo che sia invece incentivata la conversione ecologica, che siano incentivate le attività che riconducano, ci facciano riappropriare del nostro ambiente di vita. Certo. Allora in questo senso ritorna probabilmente anche i fondi, è possibile recuperarli in maniera tale da creare nuove attività, nuove modalità di impiego del lavoro e probabilmente un quadro più equilibrato della nostra città, del nostro territorio. Certo. Sì, sono abbastanza d'accordo. Un ultimo punto che voi portate, insomma, all'attenzione è quello dell'abitare, delle case popolari. Ora io magari partirei un po' dalla questione dello sciopero degli affitti, il mercato immobiliare. Abbiamo visto a Firenze in particolare, come in tutte le città d'arte che hanno puntato sull'industria del turismo, è veramente crollato, e lasciando completamente vuoti i centri con veramente migliaia e migliaia di case sfitte, che poi probabilmente saranno anche queste riconvertire. Intanto, ti sembra quello dello sciopero dell'affitto, dell'autoriduzione dei canoni, uno strumento utile a portare avanti una lotta sull'abitare e sul diritto alla città? E ti sembra ad esempio sufficiente se questo rimane perimetrato in una città, oppure dovrebbe essere un movimento globale a portare avanti questi temi? Decisamente, anche qui siamo nell'ottica della riappropriazione dei propri livelli di vita, della propria qualità di vita, quindi lo sciopero degli affitti e l'autoriduzione io penso siano fondamentali, siano un primo passo da estendere in maniera ovviamente globale, e comunque ribadisco che ci sono dei contenitori pubblici che potrebbero essere utilizzati benissimo per queste finalità, le caserme abbandonate, ma non si tratta di occasioni precarie, ma si tratta di risposta di edilizia pubblica che deve essere incentivata, investimenti in questo senso. Purtroppo questa amministrazione continua invece nella stessa maniera, per esempio come hanno fatto finora. Per esempio il lunedì prossimo il Consiglio Comunale dovrebbe adottare il piano cosiddetto di recupero dell'ospedale di San Gallo, un contenitore enorme che avrebbe potuto rappresentare davvero una riappropriazione la parte della città è stato svenduto da Cassa Depositi e Prestiti, sappiamo tutti cosa ci sarà, un albergo di lusso. Allora noi, albergo di lusso e suite, quindi come dicevi tu in precedenza, ecco, allora questa amministrazione ha il coraggio di bloccare queste situazioni, quella di Costa San Giorgio che grida vendetta. Costa San Giorgio, l'ex caserma di sanità militare, sarebbe potuta diventare un luogo di pubbliche, di residenze pubbliche per alleviare la questione dell'emergenza casa, e mi sembra che non sia orientata in questo modo. Quindi, al di là delle dichiarazioni ufficiali, penso che ci siano dei grossi problemi. E comunque anche c'è un altro nodo da sciogliere, Silvio. L'attuale regolamento urbanistico, io spero che non sia riproposto, là dove si parla di destinazione di uso residenziale degli immobili, contempla anche, cioè residenza è il bed and breakfast, residenza è la casa vacanza, residenza è la casa storica, come si dice, sono le residenze storiche. Cioè che di residenza non hanno ben niente, ma sono strutture di tipo turistico ricettivo. Ecco, allora penso che ci sia, insomma, da rimboccarci le maniche e farci sentire. Comunque arrivare a delle vertenze di quartiere promosse dalle oasi di quartiere, dalle oasi urbane, dai laboratori sperimentali che dovrebbero e dovremmo tornare a farci sentire, a farci vivere. Ecco, proprio torno ora all'ultima domanda, poi ti lasciamo alla tua cena magari. proprio su questo, abbiamo visto che per un'altra città è anche impegnata proprio nell'attività di mutuo aiuto, ha messo a disposizione tutta un'infrastruttura. Come ti sembra che stia andando quella questione? Anche se hai ricevuto delle voci, le voci, proprio le parole delle persone che non solo che stanno lavorando in quel senso, ma stanno anche ricevendo questo tipo di servizio. Senti, secondo me è un servizio ovviamente fondamentale, no? Perché intanto ci si fa carico dei problemi e delle questioni degli altri, e vivere negli spazi di relazione vuol dire farsi carico delle difficoltà che soprattutto le famiglie senza lavoro, i lavoratori precari sta emergendo questo tipo di richiesta. Penso che ci si deve, nei limiti del possibile, far carico ed essere dei presidi di solidarietà attiva, ovviamente. Faccio riferimento alla bella esperienza dell'occupazione di Via del Leone, dove si sono succedute delle staffette della solidarietà, l'esperienza stessa della polveriera, dove è stato messo a punto, tu sai meglio di me, è stato messo a punto una mappa a cui far riferimento, un sito, una mappa con degli indirizzi e dei riferimenti concreti, decisamente molto graditi da coloro che li stanno utilizzando. Anche questo fa parte di quel tipo di attività di riappropriazione del territorio. Noi non possiamo prescindere da questo, dobbiamo rioccuparci e preoccuparci nuovamente del nostro ambiente di vita per indirizzarlo in maniera positiva nei nostri confronti, per la tutela della salute, per la tutela e per la giustizia sociale ed economica, decisamente in questo senso. Bene, mi sembra un ottimo punto di partenza, anche perché insomma risolve dei problemi reali delle persone, ma non solo, riesce anche poi a creare delle relazioni vere e proprie, magari anche forti e costruttive. Quindi bene, no, niente, grazie. Allora Antonio. Allora grazie, io dico un po' a tutti quanti noi, come si dice, non perdiamoci di vista, cioè qui si tratta di di ripartire e di battere il potere proprio sul piano della qualità della vita che noi vogliamo prospettare, sulla qualità della vita, di un benessere diffuso che dobbiamo agitare e prospettare. Io penso che sia questa la nostra prospettiva. Bene. Ancora grazie, bene, Antonio, okay. Fiorentino. Va bene, vi ringrazio, tutto il gruppo, ringrazio voi, davvero. Per un'altra città ti auguriamo una buona serata. Ok, ciao, anche a voi buona serata e ciao a tutti. Ciao, grazie, ciao. Ciao. Sole risorge ogni giorno e ogni giorno che fa. Allora, ancora grazie ad Antonio Fiorentino, a tutto il gruppo di Per un'altra città, a Stefano Portelli, dal quale sentiremo ancora due minuti della sua voce. E inoltre dobbiamo sentire l'ultimo pezzo della Compagnia dei Congiunti, tratto dal film Il Signore degli Anelli. E anche una sorpresina che arriva da Prato, che ha fatto tanto scalpore. Intanto iniziamo proprio da Stefano Portelli. Abbiamo un ultimo pensiero da parte sua. Sì, io ci tengo soprattutto a ribadire questa cosa, che quando in un momento in cui ci abbiamo molto presente l'ingiunzione dall'alto, poi spesso ci perdiamo la complessità della risposta dal basso, e secondo me questa è una cosa che va sempre ribadita in questo periodo. Cioè, le leggi sono così assurde, arbitrarie, disordinate, autoreferenziali, e contemporaneamente formulate male, eccetera eccetera, che in realtà le scelte rimangono tutte all'individuo, quasi sempre rimangono sono responsabilità individuali, per cui per strada si vede moltissimo la responsabilità individuale, cioè chi sceglie di muoversi, come, con chi e dove, e questo è quello che veramente conta. Cioè, mi ricordo per esempio il giorno dopo del 25 aprile, no? Il 25 aprile qui ci sono state quelli che sono rimasti rinchiusi in casa dicendo no, noi saltiamo dai balconi, quindi l'ideologia dello spazio privato, quelli che hanno detto no, invece noi andiamo per strada, pure sono andato per strada, andiamo in piazza, eccetera, perché rivendichiamo piazza, ok. Però tra spazio pubblico e spazio privato estremizzati c'è stata una marea di gente che invece passeggiava tranquillamente, cercando di non esagerare, no? Però mantenere le distanze, però qui il quartiere mio era pieno di gente il 26 aprile, nelle piazzette, eccetera, però con un'aria un po' di complicità, no? Di dire vabbè, sono solo andato a fare una passeggiata, no? E quindi era come se la società in qualche modo si fosse ripresa quello spazio proibito, però con la responsabilità di dire noi sappiamo quello che stiamo facendo. Questo tipo di cose secondo me sono quelle che sono più interessanti, che sono successe, che poi possono anche dar luogo a dei fenomeni politici. Cioè, tutti abbiamo trasgredito la legge perché sappiamo che non stiamo facendo niente di male se stiamo attenti. Questo è potenzialmente un terreno su cui costruire delle alleanze politiche. Ehi! Il mio migliore amico non va da nessuna parte senza di me. E ti pareva, è quasi impossibile separarvi. Ma il distanziamento sociale vale anche per chi è alto un metro. Una gita? Veniamo anche noi! Comunque ci vogliono persone furbe per fare questo... jogging. Attività sportiva. Visite ai parenti. Ma cosa cazzo dici? 9 compagni. E sia. Voi sarete la compagnia dei congiunti. Grandioso! Che significa congiunti? Siamo molto vicini alla fine di questa diretta, oramai sono praticamente 2 mesi che andiamo in diretta quasi tutte le sere, tra le 7 e le 19, perché ci fosse collegato adesso, mi dispiace, vi siete collegati tardi. Comunque vi ricordo, siete su Radio Wombat, è una radio autogestita, attiva a Firenze da circa 3 anni, e ci potete seguire dal blog, fra un po' potrete tornare anche a seguirci sulle frequenze, le frequenze sono la 1359, sulle frequenze medie, sulla M, vecchie e rispolverate. Abbiamo diversi strumenti con i quali potete interagire con noi. Abbiamo un pad e una messaggeria dove potete lasciare dei messaggi vocali. Li trovate entrambi sulla pagina del blog wombat.noblogs.org, nel post in evidenza, quello in cima alla pagina. Da lì potete accedere. Il palinsesto, dovete guardare il palinsesto speciale ancora. Stiamo usando quello, è un palinsesto che viene aggiornato settimana per settimana, e quindi diamo un occhio insieme a quello che verrà. Oggi è mercoledì, sono le 21:27, è ora di cena, io fra pochissimo me ne vado a mangiare. Alle 22 abbiamo Le dita nella presa, una replica di Radio Onda Rossa. No, in verità è la diretta di Radio Onda Rossa. Poi questa sera abbiamo I racconti di quasi mezzanotte, manuale per la sopravvivenza agli zombie di Max Brooks, il primo capitolo. Come, quindi queste sono le letture che arrivano a quasi mezzanotte, in verità questa qua a mezzanotte, preciso. Domani, oltre la replica, domani giovedì 7 maggio, oltre alla replica di questa diretta che state ascoltando, vi sarà la replica della stampa rassegnata alle ore 10, alle 13 il radiogiornale di Radio Spore, alle 17 un In punta di pedale, alle 19 di nuovo diretta speciale e poi 8 Hertz. In particolare va menzionata, degna di nota, è il radiogiornale delle 13, è fatto da Radio Spore, una giovane radio bolognese nata in quello che era l'XM, e fa parte di una rete di radio libere che negli ultimi anni e mesi e anni stanno venendo a galla, è un po' come per Radio Wombat, e questa cosa è successa tanto a Bologna con Radio Spore quanto a Genova con Radiogramma, che è un'altra radio libera, che entrambe vanno o andranno a trasmettere sulla stessa frequenza di Radio Wombat, ognuno nella propria città, però rappresentano degli esempi sperimentali, più o meno sperimentali, di un'informazione dal basso, di una riappropriazione di spazi nell'etere. Dobbiamo anche citare l'esperienza napoletana di Radio Neanderthal e la neonata esperienza romana di Radio Forte, nata veramente da pochi giorni con la Tana base al Forte Prenestino, nata proprio dall'esigenza di diffondere voci fuori dal coro anche nella capitale, nonostante questo venga fatto in modo egregio dai compagni e le compagne di Radio Onda Rossa, ma non fanno mai male nuove radio. Le potete ascoltare praticamente tutte dalla stessa piattaforma che ospita anche Radio Wombat, che è streampunk.cc, nella quale appunto, se voi andate su Listen, trovate tutti dei vari link dai quali potete ascoltare gli streaming. Ci sono un po' radio da tutto il mondo, ma quelle che io vi ho enunciato ci sono tutte. L'ultima cosa, un po' per tornando alle notizie locali, c'è un compagno a Prato, compagno con la K, di nome Biffoni, che ogni tanto se ne viene fuori con delle uscite geniali, e fra l'altro una di quelle, lui è un paladino della fase 2, e non posso far altro che farvelo sentire, direi, eccolo qua, appena finisce la canzone, ci partirà il compagno Biffoni, che nella sua diretta Facebook ha pensato bene di dare spettacolo. Dal decreto, appunto, quindi lo potrei fare. Veronica, si può uscire in centro? Io? Si può uscire in centro il sabato sera? Allora non ci siamo capiti. Ora ragazzi, ma io ditemi voi cosa devo dire. Quindi siamo qui è 4 maggio, non cambia nulla, cioè si può uscire in centro il sabato sera. Ma come si può uscire in centro? Ma per andare dove è tutto chiuso? Dove devi andare? Spiegami dove vai, Veronica, dove vai? Che è tutto il giro in tondo alla strada di Datini, dove vai? Non si può uscire, si aggiunge, vai a trovare i congiunti, vai a trovarli, non in centro, che è tutto chiuso fra l'altro. Ma io, ragazzi, cioè io, ma davvero, ragazzi, non mi dite che c'è ancora qualcuno che pensa questa roba. Non Veronichina. Via, ragazzi, non è pensabile una roba del genere. Via, ragazzi, no, non ci siamo. Mi fate terrorizzare. Si può andare a correre. Puoi andare a correre in centro il sabato sera, di corsa, giù per il corso Mazzoni e per via Sette Soldi, vuote, spente. Ragazzi, non è il bomba libera tutti, non si può uscire a questa maniera come se nulla fosse. Restano delle limitazioni anche dai 4, ci sono degli allentamenti, ma non si, in centro il sabato sera non ci si va, non ci si può andare, poi io sapere che ci vai a fare, che è tutto chiuso, non riapre nulla, ragazzi, non ci siamo capiti. Allora non ci siamo intesi, non me le fate più, non fatemi queste domande. Ragazzi, io cerco di dare una mano, ma così, se no, non si arriva a casa. Cioè, se no, ragazzi, veramente, non ci si fa. Tu pensavi che ci stessimo riscaldando, che non facessimo sul serio, vero? Sì. È incredibile. Non può essere vero. Quel moccioso pensava che non facessero sul serio. Sì, povero illuso. Sei così ottimista che tutti ti infamano? O credi che al peggio non ci sia mai fine? Ti lasci dolcemente cullare nel presente? O il futuro è già impresso chiaramente nella tua coscienza? Sei in contatto con ogni universo parallelo? O il tuo cervello è l'unico mondo possibile? Se proprio questa realtà ti doveva toccare, corri subito a prendere carta e penna! Impasta le tue meningi, lucida la sfera di cristallo, ascolta la sinfonia dell'infinito. Aggrega qualunque altrimenti in un unico adesso e spiegaci che Dio potrebbe succedere ancora! Dai ascolto alle tue più deliranti premonizioni, alle tue più razionali previsioni, o dici semplicemente quale scenario ci aspetta per il futuro. A questo punto, scrivi il tutto in una lingua comprensibile e invialo a distopie@esiliati.org. Ogni venerdì, dalle 19 alle 21, leggeremo i testi e assegneremo ricchissimi premi! I premi verranno assegnati in maniera completamente casuale e contro qualunque competizione. Se non l'avete ancora capito, vogliamo leggere in radio cose deliranti scritte da voi. Adesso vai, figliolo. Devi riportare la pace sul nostro pianeta. Bene, siamo realmente arrivati alla fine, sono le 21.35, io devo andare a cenare. E avete sentito lo spot del concorsone letterario? Scriveteci, mandateci quello che la vostra mente partorisce. Saremo ben lieti di leggerli venerdì sera dalla Tana di Frittole. Allora, un po' in conclusione di questa puntata, cosa possiamo dire? Possiamo dire che sicuramente c'è una necessità di ricostruire tante cose, però il punto di partenza sembra proprio essere quello dei rapporti sociali, sono quelli che saranno decisivi per la costruzione di una nuova società che abbia delle basi ben diverse da quella che ha portato a questo disastro totale. Rapporti sociali che purtroppo non è possibile continuare a tenerli attraverso in forma virtuale, attraverso degli schermi. C'è la necessità di un confronto e purtroppo il confronto con i congiunti non è così sufficiente. Quindi c'è anche la necessità, sì, di avere la sicurezza, di rispettare determinati parametri, però a un certo punto bisognerà anche trovare il modo di rispettarli stando e guardandosi in faccia. Detto questo, gli spunti che sono arrivati dagli ufociclisti sono tanti, li salutiamo, li ringraziamo, Cobol, e ringraziamo anche Stefano, e ringraziamo Antonio, le loro voci ci hanno portato veramente consigli preziosi. Ringraziamo tutte le reti di solidarietà, tutte le persone che si stanno dando da fare in questo momento per iniziare quel lavoro che sarà assolutamente necessario, quella ricostruzione di una società che è stata distrutta, o almeno in parte. da questo evento catastrofico. Vi lascio con un'ultima canzone, UFO dei Doctor Doctor, e noi ci sentiamo nei prossimi giorni. Se non al più tardi, mercoledì prossimo, rimanete sulle frequenze di Radio Wombat. Le dita nella presa inizia fra né poco più di 20 minuti. Sono gli smanettoni romani, hanno sempre ottimi consigli e ottimi veramente suggerimenti. Quindi rimanete sulle frequenze, noi ci sentiamo presto. Ciao da Bricobaldo. Radio Wombat. Da sempre. E obiettivamente. La migliore.